No, anche se dubbi. I fiamminghi sono chiari. Il caffè l'avete preso tutti? Chi no ha detto di no? Io lo andrei a prendere. Considerate la lezione di oggi, andrei. Non è una minaccia, eh? Scusate solo un istante, attacco alla porta il verdetto, quello scritto di ieri, poveretti. Grazie. Ci hanno fatto anche sapere il colore della ma bellissimo. Per fai comprare? Sai cosa? Poi comprerò. Sì? Per rifare tutte queste cose? Se devi avere più insomma di fare un uncinetto magari anche perché un uncinetto per il vino? Un uncinetto per quello di no, no, no, serve la bocca bellissimo. Però questo è il quello guarda che fa, questo quanto è la e si piega per il metro la temperatura invece questo è un po' da però si apre il frutto, cioè non riesce a scoprire. Iniziamo? Cosa dite? Possiamo iniziare? Siete tutti a posto? Inizio subito con una correzione. Ho detto una scemenza la settimana scorsa e nessuno di voi ha commentato, o meglio, qualcuno ha commentato bisbigliando sul fondo, al che ho detto, forse ho detto una scemenza. Sono andata a verificare ed era la scemenza delle scemenze. Se ve ne accorgete, ditemelo. Ragazzi, quando parlo per 3 ore di fila, capita che dica stupidaggini, eh? Cioè, il fatto di essere dietro a questo tavolo non dà l'imprimitura come se fossi la Madonna o Digitria che non sbaglia mai. Vi prego. Antonello da Messina. La data del Salvator Mundi. È scritta nel cartiglio. È l'unica tavola con datazione certa che abbiamo di Antonello da Messina. E io vi ho detto, abbiamo 2 datazioni, dubbie. Ma quali dubbie? 1474, quella è la data. Nessuno se n'è accorto? Sì, qualcuno se n'è accorto. Nessuno ha osato. Ah, lei aveva detto 65. Sì, vi ho dato un'oscillazione che è quella di alcuni storici, in realtà, poi rivedendovi bene, perché mi ero resa conto di aver detto una cosa strana, però non avevo capito quale, andando a rivedere, assolutamente no, perché la data è proprio scritta di pugno dentro il cartiglio. Ovviamente è scritta in latino ed è scritta per esteso, ma la data c'è, 1474. Ci siamo. Correggete, per favore. 1474. Sì. Non c'è nessun circa. Qui siamo proprio sicuri. Se vi rendete conto che dico una cosa per un'altra, fatemelo notare, per favore. Primo, io posso sbagliare. Secondo, mi dimostra che voi siete ancora dinamicamente presenti, non solo presenti, d'accordo? Ammenda fatta. Potete chiudere la porta per cortesia? Oggi vediamo un altro grande caposcuola che ci introduce a Hieronymus Bosch. Ci siamo, ragazzi, finalmente quest'uomo apparirà. Parliamo del cosiddetto maestro di Flanelle. Vi prego, la flanella non c'entra nulla. Per decenni e decenni è stato chiamato soltanto il maestro di Flanelle. Si è ormai unanimemente concordato che il maestro di Flanelle e Robert Campin o Campin, a seconda, no, ve l'ho già detto più volte, della dicitura fiamminga o francese, siano esattamente la stessa persona. Qual è il problema con questo maestro di Flanelle o con Robert Campin o Campin, a discrezione vostra? Che non sappiamo quasi niente di quest'uomo. È una sciagura per me, una gioia profonda per voi, lo so ogni volta che dico questo. Perché? Perché avendo pochi dati, c'è poco da studiare, ma meno dati abbiamo, più problemi abbiamo nell'attribuzione delle opere. Perché quest'uomo non ha firmato niente e non ha datato niente, al che è anche un problema capire cosa effettivamente sia suo e che cosa invece sia magari, che so, di un allievo di bottega suo, o quanto alcuni lavori possano essere effettivamente attribuibili a lui o al suo maestro. E quindi, diciamo, è un artista sul quale abbiamo un sacco di dubbi e poche certezze. Non abbiamo nemmeno la data esatta della nascita. Sappiamo che deve essere nato o nel 1378 o nel 1379, sicuramente nelle Fiandre e forse a Valenciennes, forse. Abbiamo invece una certezza sulla data di morte, che è il 1444, e sappiamo che è morto a Tournai. Si scrive Tournai. Sappiamo con certezza che ha avuto un'attività politica proprio a Tournai, dopo il 1420. Perché viene chiamato maestro di Flamel? Oh, questo è tutto quello che sappiamo di lui. Cioè, praticamente niente. Perché viene chiamato maestro di Flamel? Perché esiste una pala d'altare commissionata ad un artista illustre dell'epoca, un trittico, per la chiesa di Flamel, che è un paesino vicino a Liegi. Non sapendo per molto tempo chi fosse questo maestro, prese il nome direttamente dalla località per la quale era stata fatta questa pala d'altare. È un uomo eccezionale. Chiunque egli sia, che sia Robert Campin o Campen, che sia Mister X, Chi ha dipinto queste tavole è un fiammingo di raffinatissima cultura e capacità. Perché? Prima di parlarvi della pala, giusto per darvi un'idea di chi sia quest'uomo a livello tecnico, perché insieme a Van Eyck è proprio il caposcuola, uno dei tre grandi capiscuola di tutta la storia della pittura fiamminga. Ecco perché ne parliamo, anche se cronologicamente è un passo più indietro rispetto al nostro corso. Grandissimo ritrattista, non è da escludere che l'idea di lavorare sul ritratto di tre quarti sia un'idea che nasce proprio in seno alla tecnica di quest'uomo. La tradizione ci ha sempre dato, soprattutto dal mondo classico in poi, l'idea di un ritratto frontale. Il mondo egizio ci ha abituati a dei ritratti di profilo rigidi, secchi, nella tradizione proprio iconografica del ritratto. Con la scuola fiamminga, e molto probabilmente in particolare con il maestro di Flameil, noi abbiamo una terza possibilità, che è il tre quarti, capace di darci del personaggio una tridimensionalità maggiore, se ci pensate, perché il tre quarti di per sé implica la rotondità. E quest'uomo, quest'artista, oltre che lavorare molto spesso sul ritratto di tre quarti, ha sempre cercato di lavorare moltissimo sull'incarnato di questi ritratti, con una varietà di pigmento, per quel che riguarda proprio la pelle, straordinaria, forse maggiore anche a Van Eyck per certi aspetti. E forse superiore a Van Eyck nella sapienza dell'utilizzo dei bianchi. A superarlo per l'utilizzo dei bianchi arriverà tre secoli dopo Vermeer, per cui il maestro in assoluto dell'utilizzo del bianco, proprio in assoluto. E già ve lo dicevo, insomma, Vermeer vicino e paragonabile nella capacità dell'utilizzo del bianco solo a Beato Angelico, un altro mago proprio nell'utilizzo di questo colore difficilissimo da utilizzare e da rendere. Per cui tutta la tridimensionalità che noi troviamo per esempio in questo ritratto, che si intitola semplicemente ritratto di dama, ritratto di donna, non è datato. La vediamo costruire grazie all'incarnato con questa luce frontale che, avendo appunto la postura di tre quarti, ci dà tutta una serie di sfumature sulla parte in ombra, e soprattutto con l'utilizzo appunto dei varie gamme di bianchi per darci la profondità di questo copricapo, realizzato, se notate, con un panno doppio piegato, qui proprio lo vediamo, e fatto muovere più volte sulla testa di questa dama. Perché questo ritratto è così importante, così interessante per capire la capacità tecnica di quest'artista? Beh, prima di tutto perché, vi ripeto, i volumi qui si costruiscono solo attraverso il bianco, perché se notate l'abito di lei, fate eccezione per la fuoriuscita delle mani, di cui adesso parleremo, e lo sfondo sono nero. La gamma di colori per l'incarnato, ma qui chi veramente la fa da padrone nella spazialità della tavola è appunto questo copricapo bianco. Apparentemente, perché vi dicevo, come sempre, queste opere non vanno mai guardate con un colpo d'occhio, mai. La maestria, la grandiosità di quest'opera sta esattamente in quello che noi non vediamo a colpo d'occhio, come sempre. E che cos'è che ci sfugge con questo ritratto? il fatto che molto probabilmente il ritratto di Campin o Campin sia presente nell'opera. Mi piacciono molto le vostre facce, stavolta non sto dicendo un'assurdità. Dov'è? Nella pietra dell'anello che lei indossa. Capite che bisogna proprio andare ad osservare tutto nei minimi dettagli, perché siamo per l'ennesima volta su una tavola di queste dimensioni. Per cui è un ritratto poco più piccolo della tavola dei coniugi Arnolfini. Siamo sempre, vero, su tavole che se fossimo in Italia considereremo da viaggio, proprio per le piccole e modeste dimensioni, che a mio avviso sono dettate, primo, da una committenza borghese e che quindi deve anche limitare le spese. Più grande la tavola, maggiore il costo, vero? Secondariamente dall'utilizzo di un colore che è carissimo, il colore sciolto nell'olio, e che richiede tempi lunghissimi di asciugatura. Voi lo sapete meglio di me, l'olio è meraviglioso perché? Perché si può costantemente correggere, proprio perché asciuga lentamente. Ma nel momento in cui io lavoro per vendere, meno tempo impiego a fare l'opera, meglio è. L'olio mi porta comunque ad avere tempi lunghi e quindi non è conveniente lavorare su grandi superfici. Dov'è questo ritratto? Guardate un po'. È qui. Capelli, occhi, probabilmente baffi. Ancora una volta siamo in presenza di situazioni veramente certosine, dove per andare a scoprire l'enigma, no? Di cui tanto mi si accusa tra i colleghi di così costruire sempre dei piccoli gialli su queste tavole. L'enigma vero dell'opera sta dentro l'opera ed è veramente una sfida nei confronti dell'osservatore, perché capite che questa tavola, e così è andata, per decine di decenni, per cui per centinaia di anni, è stata studiata per la dama, la meraviglia del copricapo, il colore dell'incarnato, assolutamente realistico, naturalistico, sembra respirare, per cui se anche andate a leggervi tutto quello che è stato scritto su quest'opera avete soltanto l'imbarazzo della scelta sugli elogi per il bianco e per l'incarnato. Da 50 anni ci si è resi conto che invece l'elemento tecnico più complesso in assoluto di quest'opera risiede dentro il rubino o il beriglio, a seconda che sia preziosissimo questo rosso oppure che sia una pietra meno importante ma di uguale colorazione, dimostra la strepitosa capacità tecnica. Perché capite che se il ritratto ha le dimensioni di una tavoletta, quest'anello ha più o meno le dimensioni di un anello che ognuno di noi può indossare, per cui è infinitamente piccolo. Tra l'altro, se notate, anche la parte che meno andiamo a rilevare di tutta l'opera, perché penso che guardandolo a nessuno di voi sia venuto in mente di andare a frugare tra le mani di questa ragazza, no? Siamo veramente attratti da quello che è il ritratto e ci dimentichiamo del dettaglio infinitamente piccolo. Invece per entrare all'interno della pittura fiamminga è proprio quello che dobbiamo andare a cercare. Ciò che non appare a colpo d'occhio, perché là sta la grandiosità e la maestria. Capite che per andare a realizzare un ritratto di questo genere, dobbiamo per forza essere in presenza di un miniaturista. Per cui sicuramente anche Campin o il maestro di Flanel ha a che fare con una preparazione legata ad uno scriptorium, ad una realtà monasteriale. Sapete che solo nei monasteri si potevano realizzare questi lavori di miniatura, o perlomeno nelle botteghe legate ai monasteri, appunto gli scriptoria al plurale, scriptorium al singolare. dove si copiavano gli antichi testi, si traducevano gli antichi testi e si andavano anche a miniare, a ornare, a decorare appunto con varie soluzioni a monocromo o policrome a seconda di quanto il committente pagasse, perché la committenza decideva anche i tipi di materiali da utilizzarsi. Ora, questo tipo di capacità, che guardate non è affatto un effetto ottico o un errore, è proprio un ritratto realizzato a specchio dentro a quest'anello, richiede una capacità tale anche di proiezione, di riporto, che soltanto un miniaturista poteva avere. Se poi questo miniaturista aveva avuto modo anche di cimentarsi con l'oreficeria, allora siamo veramente a cavallo, nel senso che abbiamo visto già, parlando di Van Eyck, che miniatura e oreficeria vanno in un certo senso di pari passo, vanno sotto braccio. Non è improbabile che anche quest'artista venga dalla stessa formazione, venga dallo stesso tipo di preparazione. Cosa c'entra il ritratto dei coniugi Arnolfini? C'entra moltissimo, perché se vi ricordate, lo specchio ritratto nella tavola Arnolfini è uno specchio convesso, anche lì dicevamo, vero, assolutamente di modeste dimensioni. Pensateci un attimo, questa pietra, che tecnicamente diremo che è tagliata a cabochon, per cui è liscia e bombata, è esattamente uno specchio convesso. Cambia semplicemente la sua dimensione rispetto allo specchio di Van Eyck e la colorazione in modo particolare. Noi non abbiamo un fondo argenteo come vuole uno specchio, abbiamo invece una superficie rossa che va a complicare le cose a chi dipinge, ma soprattutto a noi che andiamo a guardare, perché ne siamo assolutamente meno attratti. Capite che questo è un esercizio tecnico strepitoso, perché non è altro che la messa in pratica a livello superlativo della costruzione di un'immagine su una superficie piana di quello che è l'effetto che si ha invece su una superficie convessa o bombata, se preferite. In scala, perché qui ovviamente tutto è ridotto. Guardate che non è improbabile che per realizzare questo esercizio tecnico si sia avvalso di un vero specchio convesso, l'abbia posato su un tavolo mantenendo l'inclinazione che poi avrebbe dato alla pietra dell'anello, che si sia copiato specchiandosi, cosa tipica, sapete, all'epoca, lo farà poi anche Parmigianino per dimostrare proprio le proprie doti, le proprie capacità, e che poi abbia ridotto in scala prospettica, con una vera proiezione, quelle cose che vi fanno impazzire sempre quando ve le fanno fare, ingrandire, rimpicciolire in scala, e che poi l'abbia copiato all'interno della tavola. Per quale motivo? Oh, qui ognuno può dire la sua, perché era l'amante di questa ragazza, perché questa ragazza era la moglie, la figlia. È sicuro? Cioè, perché si dà per certo che quello sia l'autoritratto dell'autore? Perché è un vezzo che poi troveremo in altre situazioni. Anche Van Eyck, che sappiamo che molto probabilmente ha ritratto se stesso, è un modo per immortalarsi, anche se non ci si firma, come fa Van Eyck, in modo così eclatante. Potrebbe anche non essere un ritratto del pittore, potrebbe anche essere il ritratto del marito di questa ragazza. E quello che ci interessa è la tecnica per realizzarlo. È un volto maschile, perché ha tanto di baffi, tipici proprio dell'uomo fiammingo di alto rango, di medio rango, e il fatto che sia il pittore o che sia un altro, poca differenza ci fa. Non sappiamo nemmeno chi sia effettivamente l'autore, è un'attribuzione, figuratevi se sappiamo esattamente chi è l'uomo ritratto. È la tecnica. Per cui vi dicevo, si è specchiato, ma può anche aver fatto la stessa cosa poi dando i tratti somatici di un'altra persona. Certo è che per ottenere questo effetto, tecnicamente dovete specchiare voi stessi, perché altrimenti non ce la fate, avreste un altro punto di vista altrimenti. Oppure dipingete stando con il mento sopra la testa di chi si sta specchiando, ma capite che è abbastanza improbabile. Abbiamo, vi ripeto, una serie successiva di esempi in cui a ritrarsi è l'artista, parmigianino vi ripeto, e lo fa, e non ho pensato di inserirvi quell'immagine tra l'altro, ma questo è un compito per casa, diciamo così, l'autoritratto su uno specchio. Lo fa tra l'altro con una forte deformazione della mano sinistra, del braccio sinistro, che tiene posato davanti a sé, deformazione causata proprio dalla convessità dello specchio sulla quale lui fa riflettere la propria immagine. Anche lì, parmigianino, e questo lo sappiamo perché ce lo racconta Vasari, perché lo scrivono anche altri, teneva questo autoritratto dentro la bottega, noi oggi diremo in studio, era il miglior biglietto da visita per dimostrare le proprie capacità tecniche, perché anche in quel caso la superficie è piatta ed è una tavola e lui dipinge la superficie facendola tagliare tra l'altro in tondo come se fosse uno specchio convesso, con la sproporzione tra braccio e volto causata proprio dalla convessità dell'immagine riflessa, per dimostrare alla committenza quanto bravo potesse essere se messo alla prova. Lo faceva grazie appunto a questo, tra l'altro, giovanissimo autoritratto, perché è proprio un ragazzino. Ecco perché si ipotizza che questo possa essere Campin, perché poi diventa proprio un vezzo, una sorta di moda tra gli artisti ritrarre se stessi all'interno di questi specchi per dimostrare appunto le proprie doti, le proprie capacità. Di conseguenza capite che se lavora in questo modo su un ritratto, se gioca in questo modo con un ritratto, chissà che cosa effettivamente si nasconda o ci sia all'interno di un trittico ancora, diciamo, poco studiato perlomeno dalla storia dell'arte alta. Studiato sì, ma in modo abbastanza rapido. L'esterno di un'altra pala d'altare, la pala di Verle. Verle, è scritto proprio qui sopra, eh? Siamo sicuramente nella prima metà del 1400 e se l'autore è lo stesso, sicuramente prima del ritratto di dama che abbiamo appena visto, perché il lavoro sui volti è ancora profondamente legato ad una pittura germanica di matrice gota, perlomeno per la parte centrale della tavola. Come è strutturata? Beh, vediamo nell'esterno prima, così capite quanto vi fosse, quanta attenzione vi fosse nei confronti di questi specchi. Questa quando è chiusa. Questa quando è chiusa, gli sportelli chiusi. Quello che noi vediamo nel momento in cui la parte sacra è nascosta. Abbiamo due situazioni. Quella di destra che ci dà un interno, siamo all'interno di una cucina, ancora una volta, focolare, aspettate, facciamo così in modo da non essere disturbati dalla pala aperta, ecco, focolare. Scusi, ma queste sono le parti già proprio esterne quando... Sì, sì, sì, per cui hai, diciamo, la controtavola. Ah, ok. D'accordo? Così è aperta. Eccola qui. Questa è la parte centrale che viene chiusa. E questi sono gli sportelli, che una volta che li chiudo come se fossero le ante di un armadio, non scorrevole, vero? Lo so, ma bisogna sempre precisare, credetemi. Quello che io ho sul retro di questa parte è questo pannello, d'accordo? E ciò che sta dietro a San Giuseppe, qui, è l'immagine di Santa Barbara. Abbiamo, perché è proprio scritto e annotato nella parte bassa della tavola, abbiamo l'immagine molto probabilmente dell'abate della chiesa, che è questo frate inginocchiato, e l'immagine di San Giovanni, San Giovanni Battista, alla nostra sinistra, e sulla destra abbiamo invece l'immagine di Santa Barbara. Databile, vi dicevo, appunto nella prima metà del 1400, secondo buona parte della critica, databile intorno al 1438. L'interno, la parte più semplice, interno di una cucina con degli elementi che noi già abbiamo incontrato. Guardate, noi abbiamo prima di tutto una finestra aperta che dà su un paesaggio nitidissimo. Non abbiamo sfumati, abbiamo tutti i dettagli. Se noi lo ingrandiamo infinite volte, vediamo che ci sono un gruppo di dame in conversazione o che stanno danzando, un cavaliere, un uomo proprio a cavallo che sta percorrendo questo sentiero, degli alberi, un'antica torre medievale. E possiamo ipotizzare che questo cavaliere se ne stia andando, vedete, dalla medesima via sulla quale stanno danzando, si stanno muovendo queste dame, per cui una strada in salita, torre medievale antica, e dietro la torre, al limitare delle colline, il mare e l'orizzonte, addirittura con delle micronavi dipinte. Infiniti, infiniti dettagli. Elemento che noi poi già abbiamo visto è quello del metallo, metallo lucido che riflette, anzi, se vogliamo un po' giocare d'azzardo, quella caraffa che serve per lavare le mani con il catino sotto potrebbe serenamente essere tolta, se isolata, da un dipinto di Marc Chagall. O, se preferite, da un dipinto di Sonia Delaunay, perché il lavoro che fa sulla riflessione della luce è tale da darcelo sfaccettato, come se fosse un oggetto di matrice surrealista, o meglio ancora, di matrice cubista. Questo è incredibile. Elemento raffinatissimo qui, che solitamente sfugge, è lo studio dell'ombra. Perché guardate, questa è un'ombra portata proprio a livello geometrico, o per capirci questa caraffa è alta 5 cm, vero? Un'ombra portata doppia perché l'abbiamo sia dentro il metallo del catino sia sulla parete, e tra l'altro con una riverberatura, perché vedete che c'è la macchia scura che è orlata da una macchia più chiara. Questa è una cosa difficilissima da creare a livello tecnico. Lo stesso tipo di studio sull'ombra portata lo troviamo sia sull'asciugamano di lino, eccolo qui, che già abbiamo trovato, se vi ricordate, no? In Van Eyck. L'ombra di questo palo, tutto lo studio delle ombre praticamente all'interno di tutto il dipinto, gli scuri, il camino, e poi guardate anche, che meraviglia, tutto il lavoro delle ombre, sia di questa straordinaria Trinità, di cui poi parleremo, della candela spenta e soprattutto la meraviglia di questo vetro, una caraffa, questa è proprio una caraffa che probabilmente contiene o dell'olio o del vino, un liquido giallo comunque, che viene enfatizzato proprio nell'ombra e nel riflesso dell'ombra sulla parete, inclinata per di più, vero? Perché abbiamo la strombatura proprio del camino, che ci fa capire che quando dipinge ci fa intravedere una finestra che noi non possiamo vedere, perché qui all'interno proprio del riflesso di questa ampolla di vetro, noi abbiamo chiaramente, eccolo qui, vedete, l'immagine di una finestra. Per cui anche qui alla infinita e costante ricerca dei dettagli. Una cosa che a me preme farvi notare è la presenza di questa statuetta, che sembra un'inezia. In realtà questo è una grisaille, è un lavoro a monocromo, che già abbiamo visto anche in Van Eyck, se vi ricordate, l'Annunciazione, no? Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. L'idea appunto di darci delle statue dipinte con ombre e effetti per renderle tridimensionali al massimo livello. Tenetela presente, perché poi questa statuetta diventerà un'opera autonoma, a sé stante, diventerà proprio una trinità. E qui è inserita proprio sopra questo caminetto come se fosse un puro elemento decorativo. Oh, guardate che un lavoro straordinario sulle ombre portate lo abbiamo veramente dappertutto, anche nei chiodi fissati sulle travi che stanno nel soffitto di questa stanza, di questa cucina. Capite che alla fine, quando si arriva a Santa Barbara, abbiamo già visto di tutto e di più. Cioè Santa Barbara è quasi la scusa per dimostrare le capacità tecniche sulla prospettiva e sullo studio delle ombre e sul paesaggio e sulla miniatura e sull'utilizzo dello spazio e sul gioco di inclinazioni prospettiche, perché se notate anche qui abbiamo un doppio punto di vista. Uno frontale che va a giustificarci tutte le ombre e uno che invece ci impone un punto di vista dal basso verso l'alto, che giustifica la forte inclinazione del pavimento. Questo divano, se ci pensate, l'abbiamo già intravisto nella camera da letto degli Arnolfini. Non ha i grilli, non ha i piccoli mostri che invece Campin andrà a realizzare, o Campin andrà a realizzare in altre pale, in altre opere. E qui abbiamo due possibilità: o hanno lavorato nello stesso studio, nella stessa bottega, avendo come modelli gli stessi mobili, oppure questi mobili erano assolutamente in voga, erano una moda del momento. E quindi con grande facilità si trovava il medesimo divano, la medesima panca in più situazioni, perché sembra proprio la stessa, tolti i grilli. Anche qui tradizione dei cuscini rossi, ma questa non è altro che l'enfasi per dare importanza a colei che siede sul divano. Già abbiamo a lungo detto, no, della preziosità di questo rosso. Non è Maria, di conseguenza veste colori diversi, e il verde qui non è affatto il verde del tradimento, vero, e della congiura, è un verde probabilmente utilizzato per avere un colore differente da quello che poi avrebbe utilizzato internamente alla pala per Maria. Velluto blu, velluto sicuramente di seta, con delle cangianze meravigliose. Quando faccio questi commenti con gli apprezzamenti mi sento un po' una venditrice di tappeti. Ma se notate, appunto, sicuramente è velluto di seta, perché solo il velluto di seta ha questo tipo di riflesso molto brillante. E questo sicuramente è un panno di Fiandra, per cui è proprio panno, lana pressata, che vira verso il giallo. E capite che qui il giallo è necessario per muovere questa superficie, per dare l'idea proprio della tridimensionalità. Andiamo da un giallo chiaro fino a un grigio marrone. Enorme quantità di tessuto per darci l'idea appunto dell'importanza di questa figura, e la sottoveste è incredibilmente preziosa perché è ricamata in bisso, per cui è in rosso, e guardate che questo ricamo, e su questo, solo su questo lacerto ci sono stati studi notevoli, compiuti proprio da esperti di storia del tessuto, Si sono scritti appunto fiumi fiumi di inchiostro solo su questo piccolo pezzetto di tessuto. Scusi, come si chiama la stoffa? Questo è un broccato ricamato sicuramente con del bisso, che è rosso il bisso, vero? È molto più prezioso della porpora. E sappiamo che proprio nelle Fiandre si erano specializzati in questo tipo di tessitura. Il ricamo era fatto a mano e il disegno del ricamo era fatto da dei pittori. Per cui noi dobbiamo immaginarci dei pittori che non fanno solo i mastri di bottega, ma che collaborano in modo molto stretto con i tintori e soprattutto con i tessitori di questi tessuti preziosissimi che vengono esportati in tutto il mondo conosciuto dell'epoca. Da qui molto probabilmente la costante presenza di tessuti particolari all'interno di questi elaborati, di questi manufatti. Il lato sinistro, che volutamente ho tenuto per ultimo, ci dà a sua volta un interno, ma se notate, volutamente questo interno ha un soffitto a botte, per cui ha un soffitto diverso. Oh, chiudi pure Guido, sai, chiudi pure l'altra parte. No, non disturbi. Alle 6 inauguriamo. Lo so, non mancherò, grazie. Vi dicevo, soffitto a botte, per probabilmente anche far vedere la capacità di dipingere due situazioni diverse. Un soffitto piano, semplice, scarno, da interno di cucina, e un soffitto a botte molto più elegante e prezioso. Queste due possibilità, perlomeno a una mente deformata come la mia, fanno venire in mente lo studio che abbiamo lasciato la settimana scorsa, dipinto da Antonello da Messina per l'immagine di San Gerolamo. Se vi ricordate, anche là avevamo un'alternanza di situazioni a botte o perlomeno a semisfera e situazioni piane. In questo gioco anche lì un po' surrealista, no? Di scatole cinesi dentro ad una stanza gotica. Anche qui abbiamo sul fondo un effetto a grisaille, cioè abbiamo un monocromo, e qui abbiamo Maria coronata che tiene in braccio un bambino. Per cui abbiamo sia, diciamo, l'entità femminile sacra realizzata come statua, sia la Trinità, per cui l'entità maschile. Alternati, e questa è una finezza proprio fiamminga, l'entità divina maschile l'abbiamo con Santa Barbara, l'entità femminile l'abbiamo con San Giovanni. Questa sorta di scambio di livelli. E se notate sono entrambe queste statue nell'ultimo livello spaziale, nella parte più alta della tavola, più o meno in asse, più o meno. Perché è così affascinante la parte di sinistra, oltre che per questo soffitto? Perché il maestro di Flanelle va ad inserire uno specchio convesso. Anche in questo caso la presenza del medesimo specchio che noi abbiamo lasciato nella camera Arnolfini ci consente di vedere la parte della stanza che noi non potremmo mai vedere, essendo noi considerati dentro la stanza. Com'è questo interno? Penso di avervelo inserito. Eccolo qui. Lo specchio ci dà non solo l'altra parte della stanza, per cui ci aggiunge una finestra che non vediamo, ci aggiunge una seconda stanza o perlomeno una stanza molto profonda, un camino sul fondo, una porta aperta e vari personaggi. Questa è, diciamo, la controparte di San Giovanni. E qui abbiamo un anziano e un ragazzino, e forse anche un secondo. Oh, anche su questo si è scritto di tutto e di più. L'anziano è Campin o Campen. No, l'anziano è un abitante della casa. La casa di chi è? È la casa del committente? No, è la casa dell'artista? No, è una casa immaginaria? Poca differenza ci fa. Noi all'interno dello specchio abbiamo ritratti dei personaggi, punto. Lo specchio è ancora una volta un calembour, è un gioco, è una sfida per l'osservatore. Consente all'osservatore di vedere ciò che non si può vedere mai in un quadro. Perché se io fotografo una stanza o se io dipingo una stanza, io sono dentro la stanza. Non posso dare tutte e quattro le pareti, ne do tre per forza. Una ce l'ho alle spalle. In questo modo il pittore ritrae anche la quarta parete, ciò che sta alle sue spalle, ciò che sta anche alle spalle dell'osservatore, perché osservatore e pittore sono collocati sullo stesso piano. Per cui un gioco anche qui straordinario e raffinatissimo. Cos'è la particolarità però di questa parte di Sportello? Che con tutta questa capacità tecnica impressionante, e questi vero sono solo alcuni dei dettagli che vi sto esponendo, ce ne sono infiniti per ognuna delle tavole che vediamo, è la posizione di questo San Giovanni, perché se notate sembra appiccicato alla tavola, non è in linea prospettica con il frate inginocchiato. Perché? Perché viene collocato, così come farà tutta la scuola del Rinascimento, del primo Rinascimento italiano, Piero della Francesca in testa, con una visuale frontale, laddove noi invece ci aspetteremo una prospettiva in linea con l'inclinazione del pavimento. Guardate, e sappiate che questa è tutta una storia ancora da scrivere, guardate che questo tipo di errore, se vogliamo chiamarlo così, appartiene alle maquette, appartiene ai teatrini che venivano realizzati per costruire le scenografie. Non appartiene alla pittura pura. Là dove io scenografo, che sono anche il pittore di corte, che sono anche il pittore del paese, vado a dipingere delle piccole sagome, che saranno i personaggi, che saranno gli attori, li ritaglio, solitamente erano in carta pressata, carta, erano in balsa, erano in legno, o erano in pergamena di scarto, per cui molto grossa, molto grezza. Li ritaglio, un po' come se fossero delle immaginine, e poi vado a posizionarle in una scatola che è un teatrino con il piano inclinato e le posiziono davanti per vedere fin dove le posso spostare per non avere problemi con la prospettiva costruita. Ovvio che la sagoma io la faccio con una prospettiva, con una visuale frontale, e che vado a posizionarla invece dentro ad una scatola con il piano inclinato che è il palcoscenico, che è la stanza dove verrà messa in scena quell'operina, quello spettacolino, quella commedia o quella tragedia. Questo tipo di errore è tipico della messa in scena, o meglio, dei modellini costruiti dai pittori, che sono anche gli scenografi, per le messe in scena. Io con questo non voglio dire assolutamente che il maestro di Flamel fosse uno scenografo, vero? Ma questo tipo di sfasatura, di sbavatura nella costruzione prospettica è tipica della messa in scena. Tintoretto compirà questo, diciamo, chiamiamolo pure errore, centinaia di volte, perché Tintoretto era uno scenografo. anche se nessuno mai si è degnato di dircelo. Brunelleschi, in alcune costruzioni, pur essendo il mago della prospettiva, da lui infatti imparerà Masaccio l'utilizzo della prospettiva, compierà questo tipo di errore più volte, perché Brunelleschi lavora anche per le messe in scena. È che i libri di storia dell'arte si dimenticano di raccontarcelo, di dircelo. Ma io non lo vedo l'errore, mi scuso. Guardate un po', vediamo se riusciamo a vedere anche i dettagli. È una cosa abbastanza... Perché il pavimento fa così e quindi va in un punto di fuga centrale. Guardate il suo piede destro, per cui quello che sta alla nostra sinistra. Okay. Guardate l'altro. Avrebbe dovuto fare così. Sì, dovrebbe essere un po' più inclinato. E questa forte discrepanza la notiamo soprattutto perché l'abito del frate segue perfettamente invece l'inclinazione. Sì. Questa immagine sembra posata sopra, posata davanti. Guardate che è un effetto che spesso noi abbiamo nella pittura rinascimentale, molto spesso, e non è improbabile, con questo non mi sto dicendo che è assolutamente così, ma non è improbabile che questa sfasatura, che questa sbavatura, dipenda proprio dal vezzo di questi artisti di lavorare per la scena, anche se quella è una storia ancora tutta da scrivere. Cos'altro c'è di interessante in quest'opera? Che con forse un po' di civetteria l'artista che l'ha dipinta ci fa vedere che lo specchio è stato appeso ad hoc per questo lavoro. Perché? Perché il quadro, che molto probabilmente era appeso su questa parete, è posato per terra. Questo va a dimostrarci quello che ci viene scritto da alcuni diari, che ci viene tramandato da alcuni brogliacci, per cui dai quaderni di appunti di questi artisti, soprattutto italiani, che appunto ci dicono che questo specchio, questo tipo di specchio costosissimo, solitamente era di proprietà dell'artista che andava a fare il ritratto e che veniva inserito dall'artista al posto di altri quadri o al posto di una parete vuota, per dimostrare la ricchezza, vi dicevo, di quel casato, la ricchezza di quella famiglia, la preziosità di quella stanza. Questo è uno di quei rari esempi, testimonianza di questo vezzo, di questa pratica, perché appunto la tavola che era appesa è posata a terra. Per cui vedete quante cose possiamo dire su quello che a colpo d'occhio è un pannello noiosissimo, che ci dà il solito santo, il solito abate o il solito committente inginocchiati in venerazione, non sappiamo di cosa ancora, perché teoricamente la pala non l'abbiamo ancora aperta. Apriamola, non so che state pensando, caspita, non abbiamo ancora iniziato. Apriamo la pala e vediamo l'interno. Coloro che vedete alla nostra sinistra sappiamo essere i committenti, marito e moglie. E questo, guardate, che è un vezzo che troveremo anche nella pittura italiana. Molto spesso avremo marito e moglie ritratti ai piedi di un altare, ritratti ai piedi di una sacra conversazione. Alla nostra destra, in una chiave assolutamente desueta e profondamente fiamminga, abbiamo San Giuseppe. In disparte, come vuole la tradizione alto medievale, molto più anziano di Maria, ma qui la cosa desueta è che ce lo fanno proprio vedere nell'atto di fare il falegname, di essere un falegname, perché questa è una falegnameria, è una bottega, di questo siamo assolutamente certi. Perché? Riuscite a capire perché? A parte gli attrezzi? È una domanda cattivissima che in sede d'esame non farei mai. Perché fuori c'è una pialla. non è posizionata più al terreno come erano. Anche le altre però, o se no sono sopraelevate, però ci danno un paesaggio. Manca il focolare. Vi aiuto? Sì. Vi arrendete? Dai, un altro sforzo. Cosa c'è che non abbiamo visto mai fino adesso? Esatto. Il tipo di chiusura della finestra, tipico delle botteghe. Anziché avere gli scuri che si aprono, avevano proprio il battente che veniva sollevato e quando la bottega era aperta veniva ancorato al soffitto in questo modo. Perché capite che dall'interno poteva essere sprangata questa chiusura. Era sufficiente mettere una trave orizzontale e chiudeva contemporaneamente tutte le aperture della bottega. Guardate che questo è un vezzo che in Alto Adige esiste ancora, in alcune piccole botteghe. Lo so che le vado proprio a cercare sottoterra, però è così che si capisce se siamo in uno spazio oppure in un altro. E lui sta proprio lavorando, sta trapanando una tavola. Questo è un trapano a mano, vero? Non è un traforo, vi prego, come qualcuno ha detto durante un esame. Quello è un trapano a mano. Il traforo riscaldato da polistirolo è una cosa assolutamente posteriore agli anni 50. Il polistirolo non esisteva. Coltelli, martelli, raspe, pialle, tutto l'armamentario, asce tipiche proprio del falegname. Questo possiamo trovarlo nelle Fiandre. In Italia un San Giuseppe falegname in questo modo non lo troviamo mai. Perché? Perché la committenza è diversa. La committenza aristocratica italiana non avrebbe gradito di vedere un santo lavorare con le proprie mani, fare un lavoro di basso rango. Funziona invece nelle Fiandre perché? Perché siamo già in un contesto ampiamente legato al libero comune e alle nuove attività. Alle attività liberali. Anche in Italia abbiamo il libero comune e poi la signoria, ma una cosa è la situazione politica del popolo, una cosa è la committenza delle pale d'altare. La committenza, molto probabilmente, di questa pala è borghese, sono mercanti, non sono aristocratici. In Italia pagare, a donare le pale d'altare è l'aristocrazia, non l'alta borghesia. E qualora fosse la borghesia, è comunque una borghesia, quella italiana, che vuole imitare il principe. I Medici non erano aristocratici, erano banchieri, con grossi problemi anche con la Chiesa, proprio perché banchieri. Ma i Medici, fin da Cosimo il Vecchio, sognano di assomigliare ai principi bizantini. E quindi, quando vanno a commissionare delle pale d'altare a Orcagna, a Masaccio, a chiunque altro, o vanno a pagare loro o le famiglie potenti di Firenze gli artisti per affrescare le cappelle di famiglia nelle chiese, mai, mai avrebbero permesso ai pittori di ritrarli legati al mestiere che la famiglia aveva fatto o il mestiere che li aveva resi importanti, perché sempre hanno chiesto ai loro artisti di ritrarli come se fossero nobili, come se fossero aristocratici. È un modo di pensare diverso. Nelle Fiandre il mercante non si vergogna di essere un mercante, anzi è fiero di essere un mercante e chiede ai propri artisti di andare a ritrarre, tra l'altro, le immagini sacre come se fossero dei lavoranti, come se fossero dei borghesi. Ecco che allora anche l'Annunciazione esula completamente dalla tradizione canonica alla quale tutto il nostro Rinascimento, o perlomeno l'epoca umanistica, ci ha abituati. Noi non abbiamo Maria appunto con il fuso che tesse il bisso sotto ad un'edicola con quest'angelo svolazzante che arriva e sempre una situazione verde, sempre un paesaggio, sempre uno squarcio di apertura e sempre in un contesto alto, perché lei è sempre seduta su uno scranno importante, perché lei veste panni sontuosi. Qui l'Annunciazione avviene in cucina, nella stanza, come già abbiamo detto anche per gli Arnolfini, che è il cuore pulsante di tutta la casa borghese, della casa del mercante. Certo, lei è vestita in modo incredibilmente sontuoso, ovvero con tutto questo panno rosso straordinario, ma è pur sempre una cucina. Abbiamo anche qui il nostro bel asciugamano di lino, sul fondo abbiamo il bacile d'acqua, che già abbiamo incontrato, se vi ricordate, anche in Van Eyck. Abbiamo un focolare più volte utilizzato, perché se notate è completamente annerito proprio dal fuoco. E lei, se notate, non è nemmeno seduta sul divano, sulla panca, lei è seduta sull'appoggiapiedi, lei è quasi seduta per terra. Per cui in una posizione che nulla, nulla ha a che vedere con la tradizione canonica, di lei seduta in scranno, di lei seduta su una sedia che ricorda già il trono di Maria con il bambino in braccio, la Maria che poi verrà ossequiata dai magi. E tra l'altro la pavimentazione è la tipica povera pavimentazione di una cucina a rombi. Guardate che è una tradizione che resterà in territorio del nord Italia fino al 1940 più o meno. La cucina a scacchiera, con le mattonelline bianche e rosse o bianche e nere, no, proprio nere no, bianche e grigio scuro, già il bianco e nero appartiene all'ingresso o al bagno, oppure agli ottagoni o agli esagoni, meglio esagoni di solito, bianchi e rossi. Guardate che arriva fino agli anni 40. È proprio un'abitudine, una tradizione. Questo probabilmente nella parte rossa è cotto. Da sempre, anche all'interno dei castelli, la cucina ha pavimenti in cotto, perché si può lavare con l'acido, si può disinfettare, si può grattare. Non avremo mai pavimentazioni in legno nelle cucine antiche, mai. E se ci spostiamo a sud avremo dei maiolicati, ma è sempre cotto con pasta vitrea nella parte superiore. Quindi una situazione assolutamente privata e personale. Lei ha i capelli sciolti, ma è una donna colta, sta leggendo. E non ha un libro solo, ha più libri. Oh, guardate che era un uso quello di tenere questi volumi, soprattutto quelli manoscritti, e l'epoca è assolutamente pertinente solo ai manoscritti, non siamo ancora agli incunaboli, di tenere questi volumi aperti con un panno per non lasciare aloni, per non rovinare le coperte, le copertine, che solitamente erano molto molto preziose. E di custodirli, proprio per motivi anche di umidità, dentro a dei sacchetti, a volte in cuoio, in pelle. Se notate, su questo tavolo, noi abbiamo sia un volumen che un rotolo. Cioè abbiamo sia un libro, come lo chiameremo noi oggi, con tanto di bindella, questo è il gancio di chiusura delle due copertine rigide, e abbiamo anche un rotolo, vedete? Che questo è un rotolo di pergamena dispiegato, quasi diciamo un piccolo elemento che ricordi le antiche scritture, i rotoli di matrice ebraica, di tradizione ebraica. La Torah ancora oggi, se non ricordo male, se non sbaglio, nelle sinagoghe viene tenuta in rotoli e letta srotolando e arrotolando, per cui è una sorta di libro scorrevole. Il divano ha i grilli, tanto quanto quello degli Arnolfini, ha i piccoli mostri sulle quattro estremità. Ed è in foggia assolutamente gotica, come quello che abbiamo lasciato anche in Santa Barbara. Ho i fiori, ce n'era uno anche in Santa Barbara. In Santa Barbara era un iris nero. Guardate che nella tradizione iconografica l'iris nero è un fiore legato alla resurrezione. È proprio una regola. Qui invece, se notate, abbiamo un giglio bianco, per cui un fiore che ricorda la purezza, la castità, la verginità. E potremmo veramente parlare solo di questo lavoro per ore e ore. Ultima cosa. Abbiamo, se notate, i reggimensola del camino, che sono dei grilli, sono dei mostriciattoli. Forse qui nell'antica accezione, cioè a guardia, a protezione del caminetto, a protezione di Maria. Vi dicevo, no, di questa duplice valenza che hanno i grilli. Le abitazioni erano proprio così o sono elementi... Ah, ok. Sì. Le abitazioni erano proprio così e... Cioè i grilli erano utilizzati proprio... Certo. Ma guardate che ancora nelle nostre case del 400 li troviamo. E li troviamo molto spesso come anche alari del camino. E in molti castelli li troviamo all'interno delle stanze, a volte proprio come reggi travi, come sottomensola. Un vezzo probabilmente, ma anche una sorta di elemento scaramantico, di portafortuna. Queste case, tra l'altro, nelle Fiandre esistono ancora. Sì, soprattutto nei territori che fortunatamente non vennero bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui è facile poter affermare con certezza che queste sono case, perché appunto le abbiamo ancora oggi e perché poi tutti gli artisti che verranno dopo di loro, nei tre secoli a seguire, dipingono all'interno di case. Vermeer, per esempio, dipinge casa propria e su questo siamo sicuri. Per cui sì, siamo proprio in una situazione spaesante, diciamo, rispetto alla tradizione canonica, rispetto alla tradizione anche italiana dell'Annunciazione. L'angelo, se notate, ha ali importanti, policrome, rosse nella parte interna, con questa sfumatura che va dall'oro al rosso cupo, e veste paramenti ecclesiastici. Veste esattamente come un chierico, con tanto di stola, vedete? Quella che ancora oggi i sacerdoti utilizzano per dire messa non sull'altare maggiore, quando non indossano i paramenti ufficiali, ma semplicemente la stola per dire messa. Guardate che questa non è una stranezza, questo è normalissimo. Perché i pittori assistevano alle sacre rappresentazioni e nelle sacre rappresentazioni in chiesa o nel sagrato della chiesa o all'interno della città, pensate, non so, a tutta la funzione della Settimana Santa, per esempio, a interpretare gli angeli erano sempre gli allievi del monastero, erano i chierici. e indossavano proprio le tuniche che avrebbero utilizzato per la messa. Di questo siamo certi, abbiamo tutte le pezze giustificative, abbiamo anche gli elenchi in alcune canoniche degli abiti di scena utilizzati e conservati nelle casse, per cui sappiamo che avevano tot tuniche e proprio c'è scritto che erano le tuniche usate per le funzioni sacre in chiesa, che avevano tot corone, tot finte ali, fatte con piume de gallina. È bellissimo leggerle, perché è un italiano, perlomeno quelli italiani, che assomiglia moltissimo alle forme dialettali locali. Il problema è quando ci spostiamo dal nord e scendiamo verso il sud, dove c'è parecchio arabo anche all'interno di questi testi. Per cui questa non è una stranezza, anzi, sarebbe da stupirsi se l'angelo vestisse altri panni. Ma questo è quello che il pittore è abituato a vedere nelle sacre rappresentazioni, in piazza, vi ripeto, o all'interno della chiesa stessa. Tutto questo discorso per portarvi a un'altra sua opera, databile intorno al 430, che è la cosiddetta Madonna del Parafuoco. Se notate, ci cambia il punto di vista, ma non l'ambientazione. Siamo sempre dentro ad una casa, molto probabilmente una cucina, divano con i grilli, probabilmente esattamente lo stesso divano che abbiamo appena visto, il libro posato sui cuscini. Oh, guardate che è meno bianca quest'opera di quanto la state vedendo, porpora e questo panno verde. Anche qui ricordatevi che gli artisti di allora assomigliano a voi. Se doveste ritrarre qualche cosa dal vero come esercizio a casa, voi andreste a dipingere, a disegnare gli oggetti che avete dentro casa, gli oggetti che utilizzate per la scena, d'accordo? Se foste dei fotografi, nella stanza dove fotografate avreste una serie di oggetti. All'epoca era esattamente la stessa situazione, per cui il panno verde che abbiamo visto come manto di Santa Barbara molto probabilmente è lo stesso panno verde che noi stiamo vedendo appoggiato a questo divano. Guardate che anche Caravaggio farà in questo modo. Tutte le tende rosse, i drappi rossi che noi vediamo nelle opere di Caravaggio non sono altro che una tenda di velluto rosso che Caravaggio aveva all'interno della propria stanza, che era anche lo studio, e che ritorna in tutta una serie di opere: La Natività, La Morte di Maria, I Magi, un paio di decollazioni. E lo stesso accade qui. Stessi tessuti utilizzati o riutilizzati in situazioni diverse. Perché mi interessa proprio questa Madonna? Perché, se notate, è una Madonna che sta allattando un bambino, per cui in un atto di estrema confidenza, non è assolutamente la prima volta che abbiamo questo soggetto, ma ci dà una dimensione intima, non ufficiale, non da pala d'altare. Il bambino è rivolto verso l'osservatore e lei conserva una postura canonica delle mani della cosiddetta Madonna della Tenerezza. Mano sinistra a reggere il bambino e mano destra sollevata, talvolta benedicente. Questa postura è una postura canonica dell'immagine mariana che ci portiamo fino a Casimir Malevich. Scusi, la postura canonica della Madonna? Della tenerezza. Sì. Mano sinistra bassa e mano destra sollevata. Ma a me interessa per il parafuoco, perché se notate, a rendere ancora più domestica, ancora più familiare la situazione, è quella ventola, questo grande ventaglio in, sembra bambù intrecciato, in paglia intrecciata, che ha alle sue spalle. Sembra quasi che le faccia da... aureola, no? Un'enorme aureola che non è luce, immaginata, finta, attaccata, perché guardate che nelle sacre rappresentazioni si faceva quello che si fa oggi a scuola con i bambini, vero? L'aureola è il luccichino con il bastoncino fissato dietro e l'anello sopra. Nelle sacre rappresentazioni era la stessa cosa, vero? Non è che fossero dei maghi dell'illuminotecnica là dove la corrente ancora non c'era. Perché è importante? Perché capite che va a decontestualizzare ancora una volta questa sacralità, o meglio, a rendere familiare questa sacralità. L'aureola è un parafuoco, e non è un parafuoco in metallo, è un parafuoco di paglia intrecciata, cioè qualcosa di semplicissimo. E probabilmente quella paglia sono le stoppe delle pannocchie, sono la parte alta delle pannocchie secche, riciclata per vari oggetti. In molte parti d'Italia e diciamo dell'Europa ancora agricola, quelle parti della pannocchia si usano per fare i ventagli, per esempio, o per fare i tappeti da tenere in esterno, le stuoie per coprire le gerle, per fare le gerle, cioè niente viene gettato, tutto viene utilizzato, fortunatamente, e rende la sacralità bassa, o perlomeno dimostra che Maria è una donna comune, è una donna qualsiasi. Guardate che siamo a 150 anni da Caravaggio, e se vi ricordate, quando Caravaggio ritrae Maria come una contadina in una natività, la committenza vescovile palermitana censura quella pala d'altare, non gliela pagano, perché Maria è una popolana e nella cultura italiana Maria è di rango elevato, è una principessa, è una donna di grandi virtù e quindi è una principessa, non può essere una popolana. Caravaggio ringrazia e tiene per sé l'opera. Poi l'opera verrà comunque messa in chiesa con tutta una serie di interventi, verrà sottopagata e la pagheranno un terzo rispetto a quello che era stato il contratto iniziale e verrà collocata lateralmente, ma non sull'altare maggiore. Proprio perché Maria era scesa di rango. Questa non è una popolana, perché se notate ha un abito incredibilmente ricco, bordato tra l'altro di visone grigio e orlato anche con delle pietre preziose, per cui l'abito ci dà il rango, ma l'ambientazione è un'ambientazione bassa, è un'ambientazione borghese, quasi, diciamo, di una borghesia non estremamente ricca. Tolto il calice dorato che ricorda l'Eucaristia e quindi ricorda la funzione religiosa conseguente alla nascita e soprattutto alla morte di Cristo, nulla è estremamente ricco all'interno di questo spazio. Non abbiamo vetri, non abbiamo cristalli, non abbiamo niente di prezioso che possa luccicare. Per cui è un modo per rendere familiare la natività, l'immagine di Maria. Perché mi interessa proprio questa Madonna fra tutto quello che potremmo vedere? Perché questo mi permette di farvi vedere un'enorme differenza con l'arte italiana in Andrea Mantegna. Ma forse prima di parlare di Mantegna è caso di fare una pausa caffè? Pare di sì. Per cui 10 minuti di pausa e poi parliamo di Andrea Mantegna. Posso chiedervi di aprire le finestre, per favore, così cambiamo anche l'aria. Grazie. Invece nella serata del Piazza Bove c'è un equipo nostro. Cacchio, noi, cioè, nel nostro jock c'è anche la pipa di Etti, io conosco. Sì, sì. Però loro vengono... Però tipo lì, anche loro se dovessero fanno pagare, tra il fatto che li conosciamo eccetera, cioè vabbè veniamo gratis, però cosa abbiamo c'è. No, beh, certo. Sì, è tutto un po' un baratto. Devi assolutamente avere dei contenitori rigidi per le banane, se no è un disastro. Perché se poi schiacciata era un po' troppo matura forse. Non si può fare. Sì, l'ho visto. Però scusate, non ha quell'indignazione. Ma va bene, sì. Ma vi rendete conto che fa costantemente merenda? Qui è sempre un campeggio quest'anno. Ci manca solo il plate per terra e siamo perfetti. Vado a mangiare vicino alla battuta. È andata in biblioteca. Quale? Perché oggi sono passata per vedere se c'era la cassetta, quei libri che aveva dato lei. Sì. I libri li ha portati. No, io non ho portato nulla, sono libri della biblioteca, per cui proprio il testo sul rapporto tra arte fiamminga e Rinascimento italiano è proprio messo da parte sotto il mio nome dentro l'armadio. No, perché oggi siamo andati e ci ha fatto vedere tre libri. Sì. Che erano... Uno è quell'arancione è quello che voi dovete studiare. Ah, okay. Quello è vostro. L'altro piccino invece è per chi fa medievale. Ah, ok. E io quello arancione avevo espressamente chiesto che venisse fotocopiato tutto. E non hanno il toner, cioè io ho fatto talmente poco, quindi... Vi rendete conto? Si è rimasto così. E invece volevo chiederle, sempre per l'esame che c'era la comparazione da fare con un'opera italiana, e bisogna farla anche scritta proprio? Io preferirei. Sì? Sì. Va bene, sì, solo per sapere che avevo intenzione di darlo a giugno. Sì. E quindi... Volevo chiedere se tu farla con un'opera di Piero di Cosimo. Come no? Certo. O se no volevo fare tipo Michelangelo, Schongauer, che se si poteva, cioè era. Perché no? Non era solito parallelismo. Certo. Cioè vedere un po' un attimo come. Sì. Quando parleremo di giudizio universale io chieggerò ovviamente okay. Michelangelo. No, perché, perché... c'era. Forse non so se aveva detto che cioè, l'artista non doveva essere nominato in classe, no? Allora glielo ho detto subito così, io prima non lo sapevo. No, ma no, certo, poi comunque avete talmente tanto. Sì, vediamo un attimo. Potete anche, non so, prendere un'opera fiamminga di cui abbiamo accennato, magari non fatta tutta l'analisi, e compararla con un'altra opera che io non ho fatto. Questo sì, ci mancherebbe. Ma magari andiamo subito. Eravate preoccupati sul come, potete anche non dire tutte queste cose, cioè basta... lo sforzo, insomma. Bene. Poi magari quando ci avviciniamo all'esame, appena sapremo anche le date, ne parliamo, perché io avrò una marea di ragazzi del triennio. Ah. E quindi vorrei che gli esami vostri fossero però con tutto il tempo necessario. Perché poi è una conversazione, sì. Però voglio poterla fare in serenità, non con 20 persone al mattino e 20 il pomeriggio, per cui magari gestiamo bene anche i tempi. Okay. Ci metteremo d'accordo poi. Quello che fa io è una tavola a serie 4. Io ho tanti, sono 4. assolutamente. È molto deliziosa, è molto fiammica. No, vabbè, a parte di scherzi. Chi è che avrà questo bel lavoro? Per che materia è? Ah, è di illustrazione, di grafica e illustrazione. Ma chi dovete portare questa cosa bellissima? Ma in realtà era un conto scritto da uno scrittore di Torino su un'opera. Cioè in realtà sarebbero 7 racconti, ogni racconto è scritto da uno scrittore diverso su un'opera di Torino. Carina. Abbiamo provato a metterla insieme. Sì. E poi appunto... Cioè, ma poi la esporrete o resta? Si parlava di pubblicazione. Ah, che bello. Bisogna sempre aspettarsi di tutti perché ogni progetto deve passare per 1000 permessi economici soprattutto. Però vediamo so. Sì. L'immagine quella che c'è magari di Costantino seduto sul trono? Sì. Come per trovarla più o meno? Perché io la passo in tutti i modi. È difficilissimo trovarla. E voilà, ieri ti ho scritto Costantino sul trono. A parte mi arrivava l'immagine di Costantino di... Costantino, sì. Il ragazzo. Infatti, tronista. E quindi... E voilà. E quindi provo a mettere immagine, trono, inclinato. Non riuscivo a trovare nessun modo. Te la do io. Oh. Perché io inizio a cercare le immagini, no, qualche volta dicevo di male, certo parole. Sì, complicatissimo. Certo, richiede tempo. Sì, un po' prende perché cercare. Perché poi uno trova altre cose, no, piace, no, si perde. No. Però capisce quante cazzate ci sono dentro a questo. Però uno cerca una cosa anche abbastanza seria e trova delle cose come in realtà uno capisce il messo a volte, cioè non solo che cercando con un nome e trovi. Quanto è difficile, guardi il libro d'arte di Cattelan. Guardi, quanto è difficile. Impossibile direi. Quanto è bello però. Io vado a leggere il tuo disegno. Ok, italiano. Ah, perché italiano si dice. Ma io vado tanto, se vado molto non faccio. No. Quindi no, se tu vuoi, ti compri tutti i libri d'arte perché io vado più facile. Beh, certo. No, ma è più facile comprarla. È facile arrivarci, poi se non giri per Torino. Ma pensi la soddisfazione di vedersi tradotti così? Deve essere bellissimo. Cosa vuol dire? La stazione è quella che c'è di là. È Porta Nuova o Porta Sud? È vero, Porta Nuova. Ma è vero, ho finito. Ma non è informato di questo. Mia figlia studia il giapponese come autodidatta. Ormai da 4 anni segue la stessa serie televisiva di cartoni che mia mano. Mia sorella, lo dico, lo straparlo. Mia figlia invece sta seguendo queste lezioni di giapponese televisive date da questa. Ok, allora secondo me seguono la stessa cosa. Ma è demenziale, è troppo bello. Però posso dire che sta facendo molto di progressi, perché il quarto anno lei e un suo compagno si mettono lì e seguono tutta questa serie. Se non riescono a seguirla, se la registrano. Sì. E va, Sì, la cosa carina è che è appunto una ragazza giapponese, per cui tutte le pronunce, queste cose. E fa uno strano effetto vedere la propria figlia che anziché giocare con le Barbie segue le lezioni di giapponese per televisione. Però meglio quello del Barbie. Sì, ma infatti lei da sola si impara tutto l'alfabeto. E... ma ogni tanto saluta. E non sono impari. Dice, ma come non capisci? Dicono veramente. Sono carini. 11 e mezzo. Piccola. La mia ne ha 22 e inizia a studiare il giapponese il primo anno. Ecco, vede, io ho creato un mostro. No, io ma forse una sfida. Ma una cosa diversa soprattutto perché. Ma cosa se io? Cosa dite? Riprendiamo? Sono passati 10 minuti? Sì. A parte che sono le 3 euro. Tranquillo, tanto ci arrivo. Certo. La candela è nella penultima annunciazione, la candela è spenta e fumante. Con le ali magari, la candela è l'idea dell'attimo, lei lascia, cioè lei, l'artista lascia questo fumetto che sa. Sono delle cose incredibili. No, perché tu questa diciamo è veramente per ogni singola casa. Da proprio il momento di quel momento. Sì, no, sì. Anch'io ho pensato, ipotizzato. Sì, proprio l'idea del mala che sbaglia, lo spegne. Ma in alcune situazioni si vede anche la situazione del fuoco dentro il focolare. Sì, ma non l'hai fatto apposta. Ripetuta più. Allora, capito, l'inglese di una storia dell'annunciazione all'interno della cucina. Sì, quindi le fiamme, sono spostate dalla carne, la lotta che. Chiedo scusa per il cellulare. Da può capitare, capita anche a me. Ma sì, no, ma risposta che sono pieto sempre. Ma sono mosso da tua parte. Aspetta, non vuoi partecipare all'evento? No, due di me. Si spegne di quaderni. Ho fatto ieri la Campo in via distrutti. Siete un terzo? Ho scoperto come decimare il corso. Niente. Andrea Mantegna. Voi sopravvissuti a Campin. Beh, su Andrea Mantegna, rispetto a coloro che abbiamo visto finora, abbiamo molte notizie. Rassegnatevi, qui vi tocca leggere di più. Andrea Mantegna, di lui sappiamo molte cose. Sappiamo dove nasce in provincia di Padova nel 1431 e muore a Mantova nel 1506. Ritengo sia uno di quegli artisti che sono stati molto studiati, ma mai abbastanza. Si forma a Padova direttamente alla scuola dello Squarcione, e quindi quando diciamo Squarcione diciamo uno dei più grandi intellettuali dell'umanesimo del Nord Italia. Un grandissimo collezionista, tra l'altro, di arte antica, classica. Sarà proprio lo Squarcione a riportare l'amore per la classicità, a livello artistico proprio, perché compera, vende, fa da consulente anche per la famiglia d'Este, per l'acquisto proprio di opere provenienti dall'area greca. Grande studioso, erudito, conosce il greco. Tenete conto che Padova è la prima università d'Italia ad avere una cattedra di greco antico. E se non ricordo male è del 330 l'apertura di quella cattedra, ma prendete questa data con le pinze, potrei anche ricordare una data per un'altra. È comunque nella prima metà del 1300 l'apertura della cattedra di greco. Per cui siamo nella città giusta per tutta una serie di situazioni. E Mantegna è giusto a studiare direttamente, di prima mano, proprio direttamente dallo Squarcione. Lavora in modo alacre, dipinge quasi subito, è diciamo a scuola dallo Squarcione tra il 1442 e il 48, ma queste sono tutte date che poi potrete vedervi tranquillamente anche da soli. Quello che ci interessa è che lavora presso la Cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani a Padova, per capirci la chiesa adiacente alla Cappella degli Scrovegni, per cui un luogo preziosissimo e forse tra i più antichi proprio nella tradizione pittorica di Padova. Cappella degli Ovetari. La famiglia Ovetari era una famiglia aristocratica molto illustre a Padova, quanto la famiglia degli Scrovegni. Realizza una serie di pale d'altare, non stiamo ad impazzire su quali e quante, e la sua collaborazione principale, vitale per molti aspetti, sarà quella per i Gonzaga, per famiglia Gonzaga a Mantova, dove arriva nel 460. Proprio chiamato come pittore di corte, per cui era già un pittore capace e illustre, e calcolate, vero che ha 29 anni, direttamente da Ludovico III Gonzaga. E il suo legame profondo con la famiglia d'Este si consoliderà in modo particolare quando, sposa di Ludovico Gonzaga, diventerà Isabella d'Este, una delle donne più intelligenti, credo, del Rinascimento italiano. Coltissima, raffinatissima, incredibile, incredibile economista, capace di gestire un regno anche da vedova, cosa rarissima per l'Italia del Nord. E quindi anche con una capacità dialettica e diplomatica considerevole. Andrea Mantegna avrà un legame intellettuale profondissimo con questa donna. E non è improbabile che molti suggerimenti, soprattutto per la produzione, chiamiamola laica, molti suggerimenti sui temi arrivino direttamente da Isabella. E forse non è un caso anche che le due ultime opere di Andrea Mantegna siano proprio per lo studiolo privato di Isabella. E due opere sulle quali ci sarebbe veramente ancora moltissimo, moltissimo da scrivere. Cosa fondamentale per noi? Andrea Mantegna dipinge a tempera, su tavola. Sempre. Sempre è riferito alla tempera, vero? Ovviamente dipinge anche su tela, ma sostanzialmente su tavola, soprattutto su tavola. Mai ad olio. Conosce la pittura fiamminga. E io dico per forza. Perché? Perché nasce a Padova e lavora a Mantova, cioè si ritrova ad operare tra due città che hanno degli scambi commerciali attivissimi con le Fiandre, attivissimi, attraverso proprio la lana e la tintura delle lane e strettissimi rapporti diplomatici. E come spesso accade, anche Andrea Mantegna segue spesso la famiglia Gonzaga nei trasferimenti diplomatici. È un artista, vero, che tutti, spero, abbiamo studiato, tutti, non fosse che per il Cristo morto oggi conservato a Brera e per molte altre opere che ha realizzato. Noi lo affrontiamo per due lavori, uno lo vediamo soltanto, l'altro lo analizziamo. Quasi, quasi contemporanei alle due Madonne che abbiamo appena visto di Campin o Campen, come preferite. Questa è la cosiddetta Madonna della Vittoria, oggi conservata al Louvre. C'è stata rubata nella campagna napoleonica. Madonna della Vittoria? Sì, Madonna della Vittoria. Siamo nella seconda parte del 1400 e a me interessa solo per un flash l'impostazione e il trono. L'impostazione: questa Maria è assisa in trono nel vero senso del termine, cioè è sopraelevata rispetto a coloro che la attorniano. Veste e panni sontuosissimi, anche lei in rosso, colore molto caro a Mantegna. Il basamento su cui posa il suo trono è di matrice classica. Ricorda la tradizione della pittura su vaso del mondo greco o etrusco. La raffinatezza di Mantegna ci dà dei monocromi proprio nella parte del basamento, e là dove noi ci aspetteremo, che so, un Edipo e la Sfinge, ci ritroviamo ad avere invece l'albero della tentazione, l'albero appunto dell'eterna vita, al quale si avvinghia il serpente luciferino e Adamo ed Eva. È una sorta di deesis, no, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, il fatto di avere in asse la sacralità, una sorta di albero genealogico. Perché? Perché Cristo nasce a causa del peccato originale. Cristo deve incarnarsi e farsi uomo per purificare, secondo ovviamente la letteratura cristiana, per purificare la mancanza, la disobbedienza di Adamo ed Eva. Ecco perché abbiamo proprio questo soggetto ai piedi di Maria. Perché la nascita del bambino è causa o conseguenza, se volete, del peccato originale. E quindi ai piedi abbiamo la scena, diciamo, che motiva questa nascita. Sotto a questo basamento, se notate, abbiamo una sorta di supporto in marmo sul quale è inginocchiato il donatore. E qui non stiamo a dirci chi sono i donatori, anche qui abbiamo marito e moglie, destra e sinistra. E guardate che proprio nella tradizione iconografica i donatori sono sempre in scala minore rispetto ai santi presenti e sono sempre posizionati nella parte più bassa della tavola o della pala in generale, proprio per una questione di struttura gerarchica. Sono solitamente ancora vivi, sono terrestri, terreni, rispetto ai santi che sono già morti e che sono già in paradiso, per cui sono ad un livello superiore i santi. Sopra ancora c'è la divinità. Ecco che Maria con il bambino è sopraelevata. Oh, naturalmente è vero, questo basamento in marmo su cui è inginocchiato il donatore è dipinto a finto marmo e basterebbe questo per dirci come sapesse dipingere Andrea Mantegna. Perché mi interessa? Mi interessa per questo incredibile ornamento posizionato sopra il trono. Questa Maria ce l'ha una piccola aureola, è proprio una linea che intravediamo. Capiamo che è l'aureola perché la vediamo anche intorno alle teste degli altri presenti, degli altri astanti, angeli e santi, guerrieri o meno. Ma questo enorme elemento raggiato, che sembra quasi un sole, che ci ricorda il rosone di una chiesa gotica, è quasi un di più rispetto al trono, perché se notate potrebbe serenamente essere un trono di cuoio rosso borchiato, come vuole proprio la tradizione quattrocentesca, con un decoro in legno che si limita a questi girami, niente di più. Viene proprio collocato per impreziosire questa situazione, per rendere il colpo d'occhio immediatamente attirato dalla parte alta della pala. Nella tradizione, tra l'altro, del Mantegna, abbiamo tutta una serie di decori a giardino, con frutta, verdura, uccelli, un'ambientazione naturalistica, vegetale. Perché? Perché Maria è incredibilmente legata anche alla rinascita, come se fosse una sorta di nuova Cerere, colei che riporta la primavera sulla terra, andando a mescolare sacro e profano. Andrea Mantegna è un intellettuale, frequenta un mondo altamente colto, frequenta una delle corti in cui nasce il concetto vero e proprio di rinascimento, la rinascenza, che è studio dell'antico, che è studio dei miti, che è studio delle arti classiche. Ecco che la sovrapposizione tra l'immagine mariana e la tona, o l'immagine mariana e Cerere, cioè colei che regola le stagioni, colei che quando torna sulla terra, la terra vive, fiorisce da frutti, è strettissima. Ecco il perché di tanta verzura, come veniva chiamata all'epoca. Non è un vezzo, è proprio simbolo di rinascita. Lei consente a Dio di farsi uomo e quindi lei è la primavera. Lei è anche l'infinita bellezza, l'eterna bellezza. Lei è la Venere cristiana. I coralli che troviamo qui, ma che troveremo un po' ovunque, disseminati proprio in immagini come questa, che ricordano la sacra conversazione o anche la stessa natività. In alcune situazioni noi avremo un ramo di corallo in mano al bambino. Non è altro che una rilettura del mito classico, perché il corallo, secondo la tradizione greca, nasce dal sangue di Medusa. Quando le viene decapitata la testa, lei dà alla luce due figli concepiti con Nettuno, che sono uno Pegaso, per cui il cavallo alato, e l'altro è un mostro, è un gigante, di cui mi sfugge il nome, Alaone o qualcosa del genere, comunque diciamo un gigante, un mostro, perché è fuori misura, è fuori scala. Il suo sangue si cristallizza, diventa solido e diventa corallo. Chiunque lo tocchi viene risanato e può ambire all'eternità. È una specie di amuleto di eterna vita, di ritorno alla vita, perché era sangue e quindi è come se fosse sangue pietrificato. Non c'è la concezione nel mondo antico di conservare il vegetale come tale o l'animale come tale. Ecco che tutto il mondo rinascimentale si riappropria di questo mito e ne dà una lettura cristiana, cristologica. Ecco che allora il sangue di Medusa, che ha questa capacità di sanare, diventa simbolo di resurrezione. Ecco perché lo troviamo sovente appeso sopra la Natività o in mano al bambino o sopra Maria che tiene il bambino. Guardate che la funzione di questo ramo è identica all'uovo che noi conosciamo in Piero della Francesca. Identica, stessa funzione, stessa simbologia, rinascita, eternità. Tra l'altro la posizione è identica, perfettamente in asse, e se notate nella parte superiore a reggere questo corallo, che è tenuto da, non a caso, una fila di perle e da una goccia di cristallo di rocca, e qui ci rifacciamo a tutto quello che ci siamo detti nelle lezioni precedenti sulla importanza della perla e del cristallo di rocca, sono rette, se notate, da una sorta di esedra che culmina con una conchiglia. Capite che il richiamo a Piero della Francesca è incredibile? Proprio alla Madonna oggi conservata a Brera, dove poi la vediamo, questa enorme conchiglia alla quale è appeso un uovo di struzzo. Il significato è identico, assolutamente identico. Protezione, meraviglia, rinascita, resurrezione. Ma a me interessa il rosone, perché? Perché questa pala è una sorta di palestra, diciamo così, di prova, per quella che sarà la pala del Mantegna, che è la famosa pala di San Zeno. La pala di San Zeno, custodita oggi ancora all'interno della chiesa di San Zeno a Verona, ci venne rubata da Napoleone Bonaparte, che se la portò al Louvre, e nel 1815, in occasione del congresso di Vienna e quindi della restaurazione dopo la caduta napoleonica, grazie, pensate un po', grazie all'intervento di Canova, che all'epoca era una sorta di ministro degli esteri della nuova situazione italiana, si ottenne la restituzione della pala. I francesi si tennero la predella, però, cioè le tre tavole che vediamo nella parte sottostante. Gli originali di Mantegna ancora oggi sono al Louvre di Parigi. Quelli che vediamo nella pala d'altare a Verona sono delle copie, pensate un po', comunque di incredibile valore, perché le copie le fece Paolo Veronese, che era veronese, appunto, Paolo Cagliari. Per cui se voi andate a San Zeno oggi avete le tre tavole superiori di Andrea Mantegna e la predella, per cui le tre tavole più piccole e inferiori, copiate da Paolo Veronese dall'originale di Andrea Mantegna. Questo è fantastico. Due anni fa ci fu una mostra in cui venne spostata la pala di qualche centinaio di metri, ma arrivarono dal Louvre le tavole originali della predella, e devo dire che si fa fatica a capire quale sia Paolo Veronese e quale sia Mantegna. Bisogna proprio saperlo, sono proprio identiche. Cos'ha di particolare questa pala? Un'infinità di situazioni. La Madonna è assisa in trono e qui abbiamo una serie di situazioni che ci interessano. Vediamo prima un discorso generale. Guardate che la cornice che ospita il tutto molto probabilmente venne disegnata da Andrea Mantegna, è quella originale. Per cui tutta questa struttura a finta architettura, con le colonne, con le trabeazioni, con gli smerli e quant'altro, sicuramente venne progettata direttamente da Andrea Mantegna. Di questo ormai anche i restauratori ne sono convinti. Era, è tuttora, in oro zecchino, per cui è stata ricoperta in oro zecchino, e blu d'Alemagna, per cui un tipo di blu particolare molto molto prezioso, sia nella parte superiore che nelle parti inferiori, decorate a anfore, un po' a grottesca, sempre per quest'idea di rinascita, di eterna vita, per cui queste anfore disegnate ricordano proprio i bacili d'acqua e il fatto che dall'acqua sgorghi la vita. Se notate, pur essendo tavole diverse, perché guardate che quella dietro non è una tavola unica, sono tre pezzi, noi abbiamo una costruzione prospettica che ci ricorda moltissimo le cucine che abbiamo appena lasciato. Cioè c'è questo gioco tra realtà e finzione, una sorta di trompe l'oeil. Perché? Perché le colonne della cornice sono tridimensionali e la loro prosecuzione sulle tavole invece è bidimensionale, perché è dipinta, è piatta. Questa non è colonna, questa è pittura, è tempera su tavola. E lo stesso vale da quest'altra parte, lo stesso vale qui e anche in questa situazione. C'è questo gioco meraviglioso, tipico proprio del periodo, del mettere insieme elementi che sono realmente tridimensionali ed elementi che sono dipinti. Guardate che anche questo è un gioco di specchi e anche questo è figlio della scenografia, il gioco di mescolare realtà e finzione. Che tipo di architettura abbiamo all'interno? Beh, tutto sommato abbiamo un'architettura di fantasia. Perché? Perché abbiamo una sorta di finto spazio, di finta sala, aperta su tutti i lati, come se fosse una sorta di chiostro al contrario, con la parte centrale chiusa da un tetto e tutta la parte intorno aperta, con uno stilema che è tipico del Mantegna, cioè un cielo pieno di nuvole. Nuvole che spesso Mantegna utilizza come calembour. Spesso le nuvole di Andrea Mantegna vanno studiate con infinita attenzione, perché nelle nubi più volte Mantegna ha nascosto dei ritratti o ha nascosto delle immagini particolari. Uno dei suoi San Sebastiano alla colonna, per esempio, nelle nubi ci dà un cavaliere. Nella famosissima Camera degli Sposi, affrescata da lui all'interno di Palazzo Ducale a Mantova, quella famosa con l'oculo centrale, attorniata dai famosi alberi di arancio di cui già abbiamo parlato, ci dà il profilo, pensate un po', dei bimbi morti alla coppia Gonzaga. come se andando a letto la sera, immaginando che non avessero un baldacchino sul letto, potessero salutare i figli morti attraverso le nubi affrescate sul soffitto. E anche quei profili sono stati riconosciuti, pensate, abbastanza di recente. Per cui, per quello vi dico che è un artista, secondo me, ancora tanto da studiare, tanto si è studiato, ma altrettanto c'è ancora da fare. Per cui queste nubi vanno sempre viste con grandissima, grandissima attenzione. Cielo, appunto, a nubi che fa davvero sfondo a tutto l'insieme. Alternato, spezzato, se volete, da queste colonne, che di fatto sono dei pilastri, ornate da dei tondi, come se fossero dei bassorilievi romani. A me ricordano sempre, per deformazione, l'Arco di Costantino e tutta una serie proprio di decorazioni anche legate all'epoca di Traiano. Nella parte superiore, in quello che è la trabeazione tra i pilastri e il soffitto in legno, dipinto naturalmente, abbiamo tutta una sequenza di putti alati. Anche questo fa parte del mondo classico, del mondo romano. Il bimbo paffuto che regge, tra l'altro, a basso rilievo, dei festoni di fiori e frutta che abbiamo invece fintamente reali sul fronte. Cioè è un gioco continuo tra una pittura che imita la scultura, il basso rilievo, e la pittura che fa se stessa, cioè la pittura che imita la natura, che imita la frutta, la verdura, il verde. Ed è molto elegante, se notate, il fatto che la parte finta, più finta del finto, per cui la scultura dipinta, venga messa dietro. Come se il mondo classico dovesse essere presente ma facesse da sfondo a quella che invece è la realtà. Una realtà che non c'è, perché la realtà è costituita da tutta una serie di personaggi che non vivono più. Sono santi, sono la Madonna col bambino, sono alcuni santi locali, tra cui San Zeno, che fu il vescovo amatissimo dalla città di Verona, un vescovo tra l'altro africano, per cui viene sempre ritratto con la pelle scura, ma defunto, e una serie poi anche di altri santi che comunque erano morti già da tempo. Per cui una doppia finzione, no? La finzione dell'antico, pensato appunto a basso rilievo e dipinto però, e una finzione della realtà naturale con tutti i festoni di rapanelli, di cavoli, di pere, di limoni, di arance nella parte superiore, e una finzione appunto del sacro, nel senso che ha fattezze umane ma non è più sulla terra. Cosa di particolare? La parte centrale, e qui non stiamo a perderci in tutti i personaggi di Chiechi, ha la presenza di un uovo di struzzo, poi lo vediamo meglio, collocato perfettamente sopra Maria, esattamente come il ramo di corallo che abbiamo appena lasciato. Qui ci manca la conchiglia, ma abbiamo al suo posto, perlomeno abbiamo comunque in asse, una lucerna, un lume, riempito d'olio, che ricorda, se volete, un po' anche l'olio benedetto, l'olio che viene usato per il battesimo, l'olio dell'estrema unzione. Per cui quell'olio che consente ad un nato di entrare nel cristianesimo, e l'olio anche che serve al cristiano per oltrepassare la soglia della vita, attendendo l'eternità, attendendo la resurrezione. Ecco perché è in asse con l'uovo. Ecco perché si preoccupa in modo incredibile di farcelo vedere quest'olio. E vedete con quale raffinatezza, eccolo qui. è un lume acceso e la trasparenza del vetro è identica, la preoccupazione anche dell'illuminazione di questo vetro è identica a quella della tradizione fiamminga. La preoccupazione di darci un vero diretto è identica a quella fiamminga. La lucentezza dell'oro è identica a quella della scuola fiamminga. Anzi, in alcuni frangenti, esattamente come vedremo in opere fiorentine, va proprio ad inserire l'oro zecchino all'interno di queste tavole, su queste tavole, per enfatizzarne la lucentezza. Anche lì con un gioco di trompe-l'œil, perché io ho un oggetto dipinto d'oro che brilla come se fosse oro vero. Ma la cosa interessante è che qui noi torniamo ad avere angeli cantori che abbiamo lasciato nelle nostre prime lezioni, se vi ricordate, no? Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Qual è il modo qui di rendere una situazione alta familiare? Il fatto di darci questi angeli cantori non come degli adolescenti serissimi come quelli che abbiamo lasciato nella pala della settimana scorsa, ma di darceli come se fossero dei putti, andando a riprendere questo gioco di specchi tra antichità, bassorilievo, pietra e tridimensionalità, pittura che imita la realtà. I putti a basso rilievo di tutto il contorno della trabeazione sono identici agli angioletti cantori che va a ritrarre. E la postura di questi angeli, in quanto bimbi, e quindi autorizzati a non essere così rigorosamente perfetti, consiste proprio nella posizione. Un piede sollevato che va a appoggiarsi proprio sullo zoccolo sul quale è seduta la Madonna, sul quale è il trono di Maria. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete dove sono questi due putti, o meglio questi due angeli cantori? Lui appoggia in modo molto maleducato un piede su questo zoccolo, eccolo qui. A differenza di quello che abbiamo visto nella Madonna della Vittoria, la Madonna della Pala di San Zeno poggia il proprio trono su un'antica ara, perché questo non è altro che un altare greco, o meglio sarebbe dire romano, che ci viene lasciato intravedere da un tappeto preziosissimo, un tappeto persiano, che viene ritratto uguale proprio in una pala per Mantova. Quando realizza questo lavoro tra il 1457 e il 1459, lui sta già collaborando con le maestranze di famiglia Gonzaga. Non è ancora il pittore di corte a Mantova, però lui già sta lavorando a Mantova. A Mantova e a Padova. E quindi probabilmente in questo tragitto Mantova-Padova lavora anche per Verona. Questo stesso tappeto molto probabilmente era di proprietà o dei Gonzaga o di qualcuno che comunque lavorava nello spazio che lo ospitava per dipingere, per lavorare a Mantova, perché è esattamente lo stesso tappeto, per cui questo tappeto è esistito, c'è stato. Putti, vi dicevo, che diventano angeli, ma che tornano sul fronte, se notate, a utilizzare, a suonare uno strumento di cui abbiamo già parlato, il liuto, il bisnonno della chitarra, il nonno del mandolino. uno strumento che nel Rinascimento è uno strumento legato alla musica colta, alla musica raffinata di corte. È lo strumento con il quale si suonavano i madrigali, per cui proprio composizioni colte, con una matrice poetica elevata. Questo strumento quindi può, tanto quanto l'organo a canne, stare su una pala d'altare, perché è uno strumento a pizzico. Vi ricordate, già abbiamo fatto questa distinzione. E ne abbiamo due, tra l'altro con la corretta postura, con la giusta posizione. Cosa significa? Significa che Andrea Mantegna era avvezzo a vedere suonare questo strumento. Lo ritrae perfettamente. Manico, corde, numero di corde, rosetta. Per cui Andrea Mantegna, tanto quanto Leonardo da Vinci, quando vanno a dipingere uno strumento musicale, quello strumento musicale lo possiedono, lo vedono, lo hanno ascoltato suonare. E non è improbabile, come amava fare Leonardo, che anche mentre dipingevano avessero chi suonasse per loro. E lo strumento più facile da trasportare, perché pesa 4 etti, è il liuto all'epoca. Tra l'altro, come vi dicevo, è uno strumento quanto la chitarra che può avere più suoni contemporaneamente, perché è uno strumento polifonico, uno strumento che è autonomo. Perché ci preoccupiamo di tutto questo discorso? Perché questa Madonna ha la parte retrostante del trono in asse, per cui nascosto, vediamo se ci arriviamo. No, questo era per farvi vedere i bassorilievi. Ha la parte retrostante che funge proprio da aureola, una doppia aureola, perché se notate qui l'aureola l'abbiamo ed è una sorta proprio di piatto d'oro tempestato di pietre preziose, rubini e zaffiri, rosso e blu. I colori con i quali Maria è vestita, che rientrano nella tradizione canonica, dicevamo, proprio dell'abito mariano. Tunica rossa, elemento carnale, fisico, e manto blu, elemento spirituale. In che cosa Andrea Mantegna evidenzia la propria maestria pittorica qui? Dal velo che sta su Maria. Io non dipingo, ma credo sia uno degli effetti più complicati da rendere, quello di un velo, tra l'altro su un incarnato, su un volto. Un velo che prende anche il bambino. Per cui è come se lei avesse sotto il manto una conciatura di velo, ma è un velo lungo, quasi una sciarpa, con la quale lei va anche ad accarezzare il bambino. Bambino che la sta abbracciando, per cui in un atto di grande confidenza, che lei regge in piedi, tenendolo con una mano, dandoci però, se notate, la stessa postura che abbiamo lasciato nella Madonna del Parafuoco. Mano sinistra abbassata e mano destra sollevata. Il fatto che tenga una mammella o che regga il bambino non ci fa differenza, perché la postura è identica. L'altezza, tra l'altro, della mano è la stessa. Ma vi dicevo, questa è proprio una posizione canonica, che verrà riletta, rielaborata, ma che nasce dall'icona bizantina. I due non si guardano. Il bimbo guarda verso il basso e Maria ha questo sguardo perso, sembra nel vuoto, tipico, ricordatelo, della impostazione imperiale, tardo imperiale. che poi diventerà l'impostazione bizantina. E il bambino guarda in basso verso l'assemblea, verso appunto i fedeli e soprattutto verso il celebrante. Ricordatevi che nasce come pala d'altare. Non riesco a trovarla, avevo proprio messo apposta un'immagine ingrandita di lei, vediamo se è questa. Eccola qui. Ecco, vedete come questo velo sia incredibilmente elegante. Il trono che le sta dietro, vi dicevo, la parte superiore, è in pietra, perché di pietra è il trono e quindi abbiamo un nesso, ha un senso molto maggiore rispetto al trono della Madonna della Vittoria. Lavorato come se fosse un elemento architettonico. Oh, guardate che era facile per Mantegna vedere resti romani. Verona nasce come città romana, ancora oggi resti romani li potete vedere ovunque in città, incastonati nei palazzi, per terra, intorno all'arena. Ha ancora ben due porte romane, un ponte romano, per cui era facilissimo avere pezzi antichi. Se è facile vederli per me nel 2014, figuratevi per Andrea Mantegna, prima di due guerre mondiali, tre guerre di indipendenza, saccheggi di vario genere, scorrerie spagnole. Cioè Mantegna aveva probabilmente romanità ovunque, sia a Padova che a Verona. Per cui non è improbabile che traga proprio spunto da questi elementi per creare il trono di questa Maria. Ma la cosa meravigliosa di questo rosone è che ci viene dato come un elemento di alta oreficeria. Perché? Perché noi abbiamo questa parte circolare che appunto viene dipinta come se fosse di pietra. Al centro noi abbiamo una smerlatura che ci ricorda la parte interna delle conchiglie, quindi la conchiglia che ci manca in realtà è come se lei l'avesse dietro la testa, ed è completamente orlata, se notate, in oro e gemme cabochon, per cui tagliate in modo sferico, ovale, ecco, lisce, che si alternano in rosso e blu. Oro, quindi rubini e zaffiri. Questa doppia aureola, chiamiamola così, che capite è molto, molto simile all'idea della Madonna del Parafuoco che abbiamo appena visto, ma di levatura completamente differente. Là avevamo appunto un parafuoco di paglia nella semplicità di una cucina borghese, qui abbiamo una doppia aureola in marmo bianco con tutta la doratura, i gioielli, cioè siamo proprio ad un livello aristocratico molto alto. È incredibilmente simile a quello che è il rosone della chiesa di San Zeno, che all'epoca di Andrea Mantegna era già stato incassato sulla facciata della chiesa. Perché la chiesa nasce romanica, quindi il rosone non ce l'ha. Il rosone viene aggiunto poi. Questa è la chiesa di San Zeno, un romanico famosissimo, pulito, al quale in epoca gotica venne aggiunto il rosone. Ve lo faccio vedere fotografato da vicino, così vi rendete conto che ovviamente... Il rosone è stato messo dopo. Sì, certo. La chiesa romanica non nasce mai con il rosone. Si crearono degli sfondamenti perché poi divenne dogma, fu quasi obbligatorio averlo in facciata. Ecco, guardate quanto sono vicini come idea queste due soluzioni. D'altra parte ricordatevi che questa pala nasce per questa chiesa. E siamo fortunatissimi ad avere ancora la chiesa e la pala anche, e quindi a capire che c'è un nesso, c'è un legame diretto tra, diciamo, l'architettura che sta a trono della Madre di Dio e la casa di Dio. Inoltre ricordatevi anche la posizione, nasce come pala d'altare. San Zeno è una chiesa romanica, per cui ha l'altare sopraelevato, perché sotto ha una cripta molto importante, che tra l'altro si può vedere a vista, per cui è molto alta. L'effetto è, posizionando come hanno fatto negli ultimi 10 anni, perché la pala è tornata sull'altare solo da 10 anni, dal 1815 fino a 10 anni fa la pala era stata posizionata a lato della navata laterale e quindi voi potevate vederla quasi frontalmente. Oggi rimessa in sito, per cui sopra l'altare maggiore, è esattamente in asse con il rosone. È come se fossero l'uno di fronte all'altra. E questo è bellissimo perché crea questo effetto di specchi tra ciò che è dipinto e ciò che è tridimensionale, tra ciò che è pietra fintamente tridimensionale e la pietra che è tridimensionale davvero. Per cui è come se questo gioco, questa gara tra scultura e pittura, che era in voga all'epoca, in questa pala venisse amplificato, come se Mantegna stesse sfidando i mastri scalpellini dell'epoca gotica che fecero il rosone, dimostrando loro che la pittura è superiore alla scultura perché la sa ricreare perfettamente. Per darvi l'idea dell'altezza, tenete conto, vista in asse, ricordatevi sempre che io non so disegnare, abbiamo un effetto bellissimo perché noi abbiamo qui l'abside. È una lunga chiesa rettangolare, vero? 3 navate. Questo è il livello in cui abbiamo l'assemblea. Qui abbiamo la cripta, abbiamo dei gradini a scendere. Per salire all'altare maggiore, voi dovete salire, di un bel po' anche, perché è un po' più alta forse. Ecco qua. Ecco. Questa più o meno è la situazione. Voi stando qui, la vedete la cripta? È fatto apposta proprio per ospitare le... No, fatto apposta. La cripta esisteva, poi in cripta vennero messe le esequie di San Zeno, ancora ampiamente venerato, patrono della città. Tra l'altro questa è una chiesa che non era cattedrale, era pieve, una chiesa gestita sempre da... era gestita da monaci. Ma era una chiesa di vitale importanza, perché? Perché quando il messo imperiale scendeva dal mondo germanico, attraversava il Brennero. La prima città dove si fermava a chiudere i processi, a chiudere le dispute che non erano state risolte, era la città di Verona. E non sedeva all'interno del Duomo o in un palazzo per fare questi giudizi, ma sedeva dentro la chiesa di San Zeno o nel sagrato della chiesa di San Zeno. Per cui questa chiesa aveva un potere enorme. Era la chiesa, il punto di riferimento dell'imperatore germanico. Era una sorta di prolungamento del concetto di principe vescovo in un territorio che risentiva moltissimo anche dell'influenza trentina. Quindi era una chiesa di grande rappresentanza. Ecco che la palla d'altare doveva essere qualcosa di sconvolgente nel 1400, perché doveva essere d'esempio anche a coloro che scendevano dal nord Europa. Voi considerate che il rosone più o meno a questa altezza, d'accordo? Calcolate dov'è la palla d'altare, mettiamoci l'altare, mettiamoci la palla e capite che sono quasi uno di fronte all'altra, con questo gioco di specchi straordinario e, vi ripeto, pensato per una chiesa di grande, grande rappresentanza. Per cui non è casuale che ci sia così tanta cura per tutta questa serie di elementi. E anche in questo caso diciamo solo alcune delle tante cose che potremmo dirci. Chiesa, o meglio, città che ha, vi ripeto, forti, profondi rapporti con le Fiandre. Verona era la città principale per la gestione del mercato della lana. E Verona era specializzata nella tintura della lana in rosso. Perché guardate che poi ogni città aveva anche delle specialità rispetto al colore. Volevo farvi vedere come riferimento appunto la famosa pala di Brera o pala d'Urbino, oggi custodita a Brera. Questo è Piero della Francesca, vero? Vedete che l'idea della conchiglia è in linea con il pensiero di Andrea Mantegna. La posizione dell'uovo è assolutamente in linea con la lucerna di Andrea Mantegna e con il ramo di corallo. Certo, la situazione di Maria è differente perché la committenza è diversa, perché l'area geografica è diversa. Siamo a Urbino. La formazione di Piero della Francesca è fiorentina. Lui nasce a Borgo San Sepolcro, si forma a Firenze. Studia prospettiva nella bottega di Masaccio. Conosce Donatello, Brunelleschi, avete idea? E quindi c'è uno studio particolare che risente moltissimo di una serie di elementi che Piero della Francesca ha visto a Firenze. La Trinità di Masaccio in testa, altrimenti questo tipo di volta a botte con la struttura a cassone con i fiori sarebbe un'idea incredibilmente geniale, ma l'aveva già avuta il suo maestro nella famosa Trinità in Santa Maria Novella. La Madonna ha le mani giunte, il bimbo lo porta sdraiato sulle ginocchia. L'abito che indossa a me ricorda moltissimo la matrice dei tessuti senesi. E capite che siamo più o meno in linea con artista e area geografica. Anche questa Madonna, se notate, sotto i piedi ha un tappeto sicuramente di matrice persiana e quindi richiama in parte l'idea di Andrea Mantegna. Il bambino sta dormendo e porta al collo, non a caso probabilmente, una collana di corallo con un ramo di corallo, per cui porta al collo quello che Andrea Mantegna aveva messo nella parte superiore della pala, scusate il gesso, della pala della Vittoria che abbiamo visto. Anche quest'opera, anche questa tavola è a tempera, ma è a tempera grassa, per cui Piero della Francesca inizia a misturare, a mescolare con la tempera parte di olio. E quindi è una sorta di passo in più rispetto ad Andrea Mantegna. Di quand'è? È del 1472, per cui siamo un po' dopo Mantegna. Guardate che non è improbabile che lui conoscesse la pala del Mantegna. Non necessariamente essendo andato a Verona, anche se Piero della Francesca è uno degli artisti che viaggiano di più in assoluto tra quelli che conosciamo dell'epoca. Ma non è improbabile che lui la conoscesse attraverso dei disegni, delle copie perché quella pala fece il giro di tutte le corti italiane. Fu uno degli elementi più chic dell'epoca. A commissionare la pala di San Zeno era stata la famiglia Correr, per cui non una famiglia veronese, ma una famiglia veneziana. Piero della Francesca ha delle frequentazioni dirette con il veneziano, con Domenico Veneziano, frequenta Venezia, conosce gli artisti di Venezia. Capite che la famiglia Correr deve aver fatto sfoggio di quella pala in modo indicibile? Perché era uno dei gioielli, diciamo, che aveva donato. È un po' come se uno dei grandi industriali internazionali donasse un museo. Capite che ne parlerà in continuazione, che farà vedere le foto di quel museo a chiunque. E lo stesso faceva la famiglia Correr con la pala San Zeno, attraverso dei disegni naturalmente, attraverso delle copie. Vi dicevo, prego. Posso chiedere solo qual è il titolo dell'opera? Questa? Sì. Questa si intitola Sacra Conversazione. Nasce come pala d'altare. Scusi, la simbologia della conchiglia. Sì. Cosa rappresenta? Oh, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti e la conchiglia rappresenta la rinascita, proprio la rinascita. L'idea, dicevamo, no, del miracoloso, di questo oggetto magico, che tra l'altro ha tutta una serie di poteri anche nel mondo alchemico. Ecco che allora è proprio in linea con l'idea di resurrezione. Questa pala d'altare viene commissionata direttamente dal Duca di Urbino, che viene ritratto nella postura canonica del committente. È quest'uomo in armi che vedete inginocchiato alla sinistra di Maria, in atto penitenziale. Vi dico subito che questa posizione è sbagliata. Il committente, soprattutto se uomo in armi, e quindi colui che chiede la benedizione, sta a destra, sempre. Là dove vi siano marito e moglie, la moglie è sempre alla nostra destra e il marito è sempre alla nostra sinistra, perché è un uomo e l'uomo sta alla destra del padre, è l'ospite d'onore, è chi paga. Paga il marito, non la moglie, siamo in Italia e siamo nel 1400, vero? E qui non vi dico che cosa potreste leggere su questa sua posizione a sinistra, alla sinistra di Maria, per cui la nostra destra, perché è penitente, perché è in peccato mortale, perché si sostituisce a Battista, che era la moglie, tra parentesi, lei era morta, lui era vedovo. Ecco perché lei non è presente nella pala d'altare, perché non c'era già più. Chi scrive questo dimentica un dettaglio, che il Duca di Urbino era un capitano di ventura, era un combattente, e che in battaglia era stato offeso all'occhio destro, non aveva l'occhio destro. Lo sappiamo per certo, abbiamo le cronache dell'epoca che ce lo scrivono, abbiamo il suo storico di corte che ci dice anche quando perse l'occhio, in quale battaglia. E non vi dico le scemenze che si leggono sul naso di quest'uomo, naso aquilino, nato con una deformazione. Quest'uomo si fece operare, si fece tagliare il setto nasale, perché essendo capitano di ventura lui continuava ad andare in battaglia, ma avendo un occhio solo non poteva difendersi a destra, e capite che era la mano principale quella del combattimento. Come faccio a combattere se non ho l'occhio destro? Si fece quindi segare, avete idea? Il setto nasale per poter vedere con l'occhio sinistro anche a destra. Il Duca di Urbino si fece sempre ritrarre stando alla nostra destra per non far vedere l'assenza dell'occhio. L'unica volta, per fortuna nostra, che si fa ritrarre nella giusta posizione, lo vediamo infatti con una benda sull'occhio, a mo' di pirata. D'accordo? Per cui lui è lì, solo per non tramandare ai posteri la propria menomazione. Ecco perché è nel posto sbagliato. Ecco perché anche nel famoso ritratto con la moglie Battista che gli sta di fronte, lui è a destra e lei a sinistra. È un errore nella tradizione canonica del ritratto. È sempre il contrario, la moglie sta a destra. Ve li ricordate gli Arnolfini? Lei è a destra. Ma tutte le coppie che troverete nella storia della pittura fino alla Rivoluzione Francese, lei sta a destra. Se andate a vedervi tutte le fotografie dei regnanti ancora oggi, gli attuali principi, duchi di Cambridge, di Oxford, scusate, no, di Cambridge, per cui la famosa Kate è sempre alla nostra sinistra nei ritratti ufficiali e William è a destra, perché questa è la posizione canonica. Il povero duca di Urbino fa eccezione per non farci vedere che è ciecato all'occhio destro. E non vi dico che cosa hanno scritto sul fatto che lui sia in armi, dimenticandosi che è un capitano di Ventura, per cui è sempre in battaglia. E se chiede la benedizione del cielo, lo chiede perché va in battaglia, non per altri motivi. Capite però che anche per Piero della Francesca questa corazza fu una scusa meravigliosa per dimostrare la propria capacità tecnica, per dare l'idea del metallo, per riuscire a renderlo vibrante, non immaginando che poi il restauro italiano degli anni 50 avrebbe distrutto buona parte del suo lavoro in tal senso, togliendo le lumeggiature, appiattendo tutto quanto. Ma quella è colpa dei restauratori, non una scelta di Piero della Francesca. E ricordatevi anche un'altra cosa, e poi vi lascio, che per oggi vi ho raccontato una marea di cose. Ricordatevi che questo non è così lontano dalle due pale d'altare che abbiamo visto. Assolutamente. Primo, siamo nello stesso periodo, 1478. Arriva dopo la primavera, vero? La primavera nasce 3 anni prima, 4 anni prima. Perché dico che non siamo lontani? Beh, prima di tutto Brunelleschi è il grande maestro della prospettiva ed è colui che influenza Piero della Francesca, Andrea Mantegna e altrettanto farà con Botticelli. Secondariamente, noi ci troviamo qui ad avere Venere, la nascita di Venere. Maria, per gli umanisti dell'epoca, per gli uomini neoplatonici dell'epoca, è la Venere cristiana, è l'eterna giovinezza, è l'infinita bellezza. È il controcanto cristiano della Venere. L'idea della conchiglia è identico, è l'idea della rinascita, è l'idea della eternità, dell'infinità, del miracoloso, del magico. E quest'opera è su lino e venne proprio portata alle cronache come qualche cosa di mai visto, perché è dipinta non su tavola ma su una doppia tela di lino. Un esperimento che fece Botticelli, però ricordatevi, vi prego, ricordatevelo, questa è tempera, non è colore ad olio. C'è chi ritiene che sia nata come pandan della primavera, potrebbe anche essere, sarebbe incredibilmente noiosa però. Perché molti elementi che sono nella primavera sono anche qui. L'idea di Zefiro che soffia, l'idea di Flora, sono le stesse, per non dire poi del soggetto, vero? Lei è sempre, sempre la Vespucci, questa donna di cui Botticelli era probabilmente perdutamente innamorato, ma che non avrebbe mai potuto avere, perché? Perché era la donna di uno dei Medici, era l'amante, per cui era proprio la donna di casa Medici. Dico che era la donna per forza, perché la moglie gli veniva imposta per motivi di Stato, vero? La donna invece che amavano, che era la moglie, quella vera, era la donna anche più desiderata, visto che non poteva vivere nella stessa casa con lui e la moglie che gli avevano appioppato per motivi di Stato. Per cui Simonetta Vespucci è la Venere, è la Primavera, è Flora, è Clori, è sempre lei ed è probabilmente anche la Madonna di Filippo Lippi. È la donna più bella di Firenze, è la donna più corteggiata di Firenze, raffinatissima, coltissima, bellissima. E quindi è la modella. Anche dopo la sua morte continuerà ad essere la modella. Per di più metteteci che muore di tubercolosi. Capite che anticipa anche il mito dell'Ottocento, no? Questa donna bellissima, diafana, che come un fiore muore dopo poco tempo. Muore giovane, per cui è eternamente bella. Ovvio che sarà la Venere in Botticelli. Anche perché, è vero, queste sono opere che nascono per famiglia Medici. È un modo per famiglia Medici, o meglio per il signore di Firenze, di poter avere la propria amata sotto gli occhi sempre, anche se non la può incontrare, anche se è già morta. Per cui più che altro, questa è una mia lettura personale, sapete, la Primavera e la Venere sono sì tutto quello che è stato scritto e quindi simbologie legate al culto neoplatonico, legate ad una scrittura criptica, filosofica, intellettuale, simbolica, tutto quello che volete, ma sono sostanzialmente il ricordo meraviglioso di una donna di rara bellezza che non c'è più, è morta da qualche anno. Un omaggio appunto a questa donna amatissima, soprattutto da Botticelli, poveretto, che dovette amarla, da quel che sappiamo, sempre in disparte e sempre in silenzio, non potendo probabilmente neanche mai dirglielo che ne era follemente innamorato. Pena se era fortunato l'esilio da Firenze, se gli andava male veniva decapitato lì al momento direttamente da un braccio o da una prolunga del braccio dei Medici. Cos'ha di particolare questo lavoro? A me viene sempre da chiamarla tavola, portate pazienza, però vi ripeto, è una doppia tela di lino. Beh, a che a livello simmetrico non ci siamo, perché lei cade a destra dell'asse di simmetria, vero? Se noi andassimo proprio a separarla, a dividerla a metà, noi non ci saremmo, perché proprio il centro della tavola è questo. E lei non ci cade perfettamente dentro, anzi, è bella sbandata. La conchiglia è in asse. Anche qui, per piacere, usiamo la logica. Cos'è? Botticelli non conosceva la prospettiva? Beh, vi sfido io a costruire la costa di questa spiaggia non conoscendo la prospettiva. Botticelli non sapeva applicare i personaggi al piano? Guardate, sembrano tutti sospesi, sembrano tutti appiccicati. Grazie. Botticelli è uno scenografo eccezionale. Noi abbiamo perso tutto, ma 99 su 100 ha da affiancare le grandi macchine sceniche che poi Leonardo da Vinci copierà, e le copierà dall'Ammannati, le copierà dai grandi geni che lavorarono per i Medici, portandole a Milano e spacciandole per proprie, perché probabilmente quella era la cultura fiorentina nel momento, ma la maggior parte erano state inventate da buon talenti, non da Leonardo. Posiziona, colloca queste figure come se fossero dentro una maquette, dentro a un teatrino, dentro a una prova di messa in scena. Perché il volo di Zefiro è identico ai voli che Brunelleschi fece fare agli angeli in Santa all'Annunziata, che ci sono proprio documentati, che ci sono raccontati, bimbi imbragati che vennero fatti volare da un'estremità all'altra della chiesa per dare l'idea dell'annunciazione, per dare l'idea della leggerezza, perché nel 1446, mi pare, o 36, 1436, questo comunque andate a verificarla come data, Firenze ospitò un concilio ecumenico dedicato alla luce, in concomitanza del dogma di fede come il fatto che Dio fosse infinita luce. Brunelleschi, che ha appena finito la cupola di Santa Maria del Fiore, inventa una macchina scenica capace di ruotare, è una cupola, ruota, ha una serie di bimbi seduti intorno che cantano e al centro ha una mandorla che scende e che ospita l'arcangelo Gabriele. Guardate che questa immagine, la mandorla luminosa con i fuochi d'artificio intorno, influenzerà tutta la storia dell'arte a seguire. Tutta. Non troverete una sola parola di questo sui testi di storia dell'arte. È ora di cambiarli. Oltre a questo, si inventa anche questo doppio imbrago dei bambini che volano, per un'altra sacra rappresentazione, da una parte all'altra dell'Annunziata, di una chiesetta piccina, dove gli ospiti del concilio ecumenico vengono invitati. Bisogna intrattenerli, sono quasi tutti monaci, sono quasi tutti vescovi. E quindi gli fai una sacra rappresentazione, non gli metti in scena Plauto, vero? Si sarebbero divertiti un sacco, ma non rientrava nell'ordine canonico delle cose. Ecco che Botticelli, quando dipinge, ha ben impressa nella memoria la macchina scenica, le macchine sceniche di Brunelleschi, e ci dipinge i personaggi nella stessa maniera. Sono presi, rubati dalla storia della scenografia. Perché lei sbanda rispetto all'asse di simmetria? Anche qui usiamo il buon senso. Lei sorge dalle acque. Lei, scusate, è su una macchina scenica. Quella conchiglia è una macchina scenica. Non so che state pensando che sono matta, ma io ho le prove provate di questo. Perché? Perché qualche anno dopo, un altro che si era formato a Firenze va a dipingere la stessa idea, ma proprio identica, e lo fa usando proprio una conchiglia, e lo fa, vediamo dove l'ho messo, sapete perché, e lo fa mettendoci Galatea al posto di Venere. Quel signore si chiamava Raffaello Sanzio. Questa è una macchina scenica. Anche questo nessuno ve lo racconterà mai vedendo Raffaello. Perché? Perché chi fa storia dell'arte, non si è capito perché, studia solo la storia dell'arte. Dovrebbe ogni tanto avere l'umiltà di studiarsi anche la storia della scenografia, perché i pittori sono stati tutti scenografi all'epoca. A dipingere le scene non ci andava mica chissà chi, ci andavano i pittori di corte. E vedete che l'idea è la stessa. È una conchiglia che di fatto è una barca travestita da conchiglia che ha addirittura le pale una a destra e una a sinistra. Se voi andate a vedere il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, questa è un'invenzione di Leonardo da Vinci. Ma è colpa nostra, non di Leonardo da Vinci. Leonardo non scrive «mi sono inventato una nuova macchina». Leonardo disegna una macchina scenica, punto. L'ha già vista probabilmente, lui magari la perfeziona, aggiunge delle cose, si inventa delle soluzioni, ma è una cosa che a Firenze già era stata, se l'era probabilmente inventata Buontalenti quando allagava il cortile interno di Palazzo Pitti per le finte battaglie navali. Avete idea? Mega vela catramata, trasformata in piscina, riempita d'acqua, con dentro le micro barchette con i marinai veri di famiglia Medici che erano ancorati al porto di Pisa, che andavano a manovrare per gioco, per far divertire gli ospiti di famiglia Medici, facendo le finte battaglie navali. Come si spostavano quelle barchette? Così, avendo dei paggi dentro le barche che pedalavano, effetto pedalò, identico, pedalavano, con le pale esterne e muovevano le barchette. Ma capite che a seconda delle situazioni io la barchetta la trasformo in finta conchiglia? E ho un bimbo di solito, un paggio, nascosto dietro o dentro, che pedala e sposta questa barca conchiglia e fa apparire qui Galatea e qui invece la Venere. L'idea è quella. Perché lei non è in asse? A. Deve stare in equilibrio. Questa mi sembra una sciocchezza. B. Perché Zefiro le sta soffiando contro e lei è una divinità, è eterea e quindi è spostata. Lui soffia da sinistra verso destra, lui soffia come la luce solitamente cade nella tradizione canonica della luce in Italia, nella pittura italiana, e lei, come se fosse di velo, come se fosse trasparente, si sposta dolcemente verso Flora. Terza possibilità, andate a sovrapporre una spirale costruita secondo la proporzione aurea a quest'opera e vi renderete conto che se lei non avesse questo sbandamento non rientrerebbe esattamente nella curvatura. Questa è una cosa che mi è venuta in mente ieri sera a Luna, vi dico la verità. Rientrerebbe, lei non rientrerebbe perfettamente nella curvatura di una spirale costruita secondo la costruzione aurea. Guardate un po', ci sta tutto dentro e va a giustificarci tra l'altro la postura anche dei singoli personaggi. E questo è un lavoro che dobbiamo fare. Brunelleschi applica la tecnica antica. Botticelli fa la stessa cosa, anziché applicarla tridimensionalmente, la applica bidimensionalmente. Perché dico che questa è una macchina scenica e poi vi lascio liberi? Perché questo è un affresco, vero? Venne fatto da Raffaello e dalla sua bottega a Roma, all'interno di una villa fiorentina, dentro Villa Chigi. Chigi era un banchiere fiorentino, uno dei banchieri del Papa. E tra parentesi, Papa era Leone X, era un Medici. Si fa fare una casa, una villa, ha bisogno di una residenza romana, gli serve per gli affari. È una villa, è fuori dal centro di Roma. Quando dico villa intendo luogo di gioia, feste private, di tutto e di più, che sia laica o che sia ecclesiastica, vero? Questo affresco è in uno delle due logge di Villa Chigi. Noi abbiamo notizia storica di una festa data a Villa Chigi in cui gli ospiti, pensate un po', tra parentesi, la festa venne firmata da Peruzzi in persona, l'architetto della villa. Peruzzi progettò le macchine sceniche, si occupò degli apparati. 99 su 100 a dipingergli le scene, a cucirgli gli abiti, fu la bottega di Raffaello Sanzio, che gli aveva appena affrescato la villa, gliela stava affrescando. Gli ospiti arrivarono in barche dal Tevere, che aveva un ramo che passava proprio sotto la collina sulla quale all'epoca stava Villa Chigi, oggi è un po' infossata. Il braccio poi del Tevere lì venne chiuso. Gli ospiti arrivarono in barca di notte con le fiaccole e sappiamo che ad accoglierli c'erano ninfe e tritoni. Tradotto, attori che suonavano e danzavano in acqua travestiti da ninfe e tritoni. Non è improbabile che Raffaello qui vada semplicemente a immortalare, a ricordare una delle feste più chic della Roma del 1515. E per oggi credo che basti, perché vi ho raccontato già una marea di cose che io non ho ancora scritto. La prossima settimana andremo avanti, perché guardate che l'uovo e la conchiglia saranno il nostro punto di partenza dentro Hieronymus Bosch. Ecco perché vi sto facendo fare tutto questo giro folle. E vedremo in Hieronymus Bosch come uovo e conchiglia saranno macchine sceniche, non a caso. Vi ho dato già lo scoop della prossima settimana. Buon lavoro a tutti voi. Grazie. Avete tutti firmato? Non hai firmato, vero?